3, 2 e 1. Buonasera, buonasera e benvenuti alla settima puntata di Crossed Destinies, la nostra avventura di D&D quinta edizione. E vediamo, io qualche puntata fa mi era venuto in mente di fare una domanda ai vostri personaggi, poi mi sono completamente dimenticato di chiedervi la risposta. Volete entrare subito nel vivo dell'azione o vogliamo No, dare un po' più di... volevo anche io una domanda, tipo Gava che classe Una classe D&D. Sul serio? Sì. Wow. Simpatia. Portami via. Oh, wow, l'insulto in combo. Sincronizzarci, Salla. Vedi? Siamo come Trunks Vabbè, niente. Oh, ci sono i matrimoni aperti, cioè potete fare quello che volete, non dovete avervi Aspetta, paura. siamo i civili, che cazzo. È una vita che stavo aspettando. Bravo. E niente, dopo liber. Mi secca un po'. Quindi, allora. No, non mi secca un po', devo colpire anche a te, ci devo fare. Saluta. Se stai là come la pera. Saluta. Saluta. Vabbè, se puoi Quindi, iniziare. È Fireball. va bene. Allora, chiedevo appunto, volete entrare subito di nuovo nel vivo dell'azione o volete dare un po' spunto al ruolo, al gioco di ruolo e rispondere alla domanda che avevo fatto tempo fa? Potete Aspetta, scegliere. Okay. ripeti la domanda che hai fatto tempo fa. La domanda era questa. Il vostro personaggio, dove ha imparato a fare quello che fa? Chi vi ha addestrato? Dove avete imparato i rudimenti delle vostre tecniche? Ma lo sai, è il tipo cattivo. Quello da stronzo, lo stronzo. Io sulla nave che poi è affondata con me dentro. Quindi il capitano della nave e tutti gli altri mi hanno insegnato a combattere, diciamo, a sopravvivere. Ottimo, Poi ottimo. sono passati tutti gli altri, però. Sei stato più bravo a sopravvivere degli altri, probabilmente. Hai imparato Esatto. bene. Andiamo a superare un maestro in vita. Qualcun altro se la sente di raccontare la sua storia o... Allora, chi era un lago, mi sembra. Oh, e poi si lamenta che gli faccio queste domande, no? Perché sembra che io sia il coglione. Credo, forse, non si sa. Vabbè, Luce. non è colpa sua, è che ha perso la memoria quando era piccolo. Proprio la vita vera. Aspetta, non mi fa due. Ciao, quando è che ti mette un bell'anello al dito? In che senso? Ah, io, già sì, c'è cioè, lui a me. Certo. Certo, io non ne basta, cioè, io non mi dico. Ricordatevi Ah che sì, RPGDR sostiene sono la comunità. paziente, Marco. O così dice la mia classe. Appunto, Dio buono. Bad Vabbè, boy. regà, ci vediamo un'altra Va volta, bene. dai. Io c'ho LB come lineamento. LB. Sì, LB, Luriab. LB. Leale buono. Non ce la Leale. faccio, non È ce la arrivato faccio. quella, leale buono. È arrivato Tra quell'altro. l'altro, sicuro, guarda. Vabbè, senti, allora, dato che io Oh, ero. le cheat, le cheat, Dato che io ero malvivente, tipo, ero nei bassi fondi della società, cioè, Quindi la vabbè, strada è io. stata il tuo maestro. Sì, e Un insomma, altro tipo di insegnamento. picchiavo la gente, oppure io venivo picchiato dalla gente, così mi sono fatto le ossa e niente. Te le hanno fatte loro le ossa. Sì. E niente, e questa è la giornata. Dai Gallifrey, racconta dove hai imparato i tuoi trucchi da stregone. Ti Dove hai dirò. imparato i tuoi trucchi da stregone? Trucchi? Vorresti dire incredibili step? Anche sì. Ho avuto un'infanzia travagliata, come se non si fosse notato. In quasi tutti. Lo si nota tutti i giorni. Di ruolo, Urbanino, Star Wars, D&D. Cioè, la mia infanzia in tutti i giochi. Urbanino, soprattutto nella vita. Interpreti te stesso. Quando giocavo a pallone, veramente, vabbò. E comunque, sì, quello che credevo fosse la persona di cui potessi fidarmi, la mia nuova famiglia. È tuo padre. Mi si è rivelato un figlio di puttana. Cattivo. E dopo avermi rapito il cuore, pure questo. Sono rimasto troppo traumatizzato. Cioè, ma il tuo cattivo non aveva ucciso il tuo maestro? Mi ricordo male. Io mi ricordavo che avevi scritto. Allora, così. La situazione è stata. Non ho parole. Io vivevo felice e contento. Dopodiché la mia famiglia viene uccisa dalle fiamme, bla bla bla. Io, grazie alla mia indole dratonica, sono rimasto illeso dalle fiamme. Le fiamme mi proteggevano addirittura. E ne sono uscito illeso e Kussu mi ha preso sotto la sua ala. Chi, scusa? Kussu. Cusco? Cusco è questo qui, in abruzzese. Come si chiama Cusco? No, Kussu. No, non gli ha dato il nome, praticamente è stato il padre che non ha mai avuto il suo maestro, ma non ha avuto il tempo di trovargli un nome. Puttanino, per non dire putativo, e niente, praticamente alla fine scopro che lui ha incendiato la casa, cioè voleva addestrarmi per fini malvagi, e lui alla fine mi ha fatto un buon lavoro. Vedi perché c'ho vedi che ogni tanto c'ho queste indole di uccidere le persone, perché c'ho degli ricordi delle cose, i traumi che... i traumi del passato, c'ho, cioè, i flashback, fireball, capito, così mi escono. E niente, dopo lì cercherà, avevo provato tipo ad aggredirmi, però non so se voleva cercare di uccidermi oppure no. Fatto sta che mi aveva detto un giorno ci rincontreremo. No, però non ho capito come è finita. Cioè, nel senso, lui è morto. E lui è stato addestrato dal suo maestro, da questo che dal suo maestro, che però in realtà sembrava avere doppi fini. Probabilmente l'aveva anche toccato qualche volta. Infatti. E niente, si sono separati di io non sono in cattivi termini, in cattivi termini. Io non ho capito niente. Ti chiede la mia storia? Che si c'è da capire. Il tipo ammazza i genitori, mi mette sotto la sua... Però non ho capito a un certo punto perché vi siete separati. Perché ci siamo separati? Io ho scoperto che ho ammazzato i miei genitori. Vabbè, quindi? Non abbiamo tutti un'infanzia come la tua. Cioè, così. Tu sei andato lì e hai detto, tu hai ucciso i miei genitori. Lui, ok, ciao. Bene, vediamo la cosa. Sembra che ci sia stato un conflitto tra i due e che questo abbia portato alla loro separazione. No, la dinamica è stata che ho avuto un flashback, se proprio bisogna essere pignoli, perché mi ha insegnato un incantesimo che a quanto pare ha risvegliato in me, diciamo, la mia indole, bla bla bla, e quindi da lì ho cercato di intuire, poi le mie scoperte, che palle! Ho scoperto tramite cose! Io vorrei, ma puoi scriverci un libro su sta roba? Situazioni e cose mi hanno fatto scoprire che lui è stato il cattivo. Che ha ammazzato... È quello che vuole usare i background per scrivere la storia, cosa deve fare? Io l'ho affrontato e ovviamente io vittorioso lui è scappato e mi ha detto che un giorno ci rincontreremo. Questo è quello che si ricorda, cioè, lui. Questo allora storia, è super pippa. No, questo è quello che si ricorda lui, tipo okay. La menzogna che si racconta ogni giorno per dire. Esatto. Io faccio sì, scappi, stai scappando, hai paura. In realtà nella vita dice, stai scappando. Troia è super pippa se l'hai battuto. Okay. Gino, tu qualche commento sul tuo addestramento? Addestramento? Allora, lasciando le parti, diciamo, prima dell'addestramento... semplicemente un bel giorno mia madre mi ha lasciato con questi druidi, letteralmente Mosè. È normale. No, siamo tutti molto speciali. Cioè, il più normale è quello che si è addestrato dalla nave affondata. Essendo 2 minuti che ci devo parlare con l'avvocato per il divorzio. Sì, ma Gava lo sa? Sì, per quello lo faccio. Perché, chiesto io. Però è perché, cioè, per le unioni civili, prima non c'era, non mi sbrigavo il divorzio, cioè, non me ne fregavo. Ricordate visto che... le unioni civili, devo prima divorziare da quella prima, per poter... L'importante è che ci stia seguendo su YouTube. Cari ascoltatori, ricordate che RIP GDR è assolutamente a supporto della comunità LGBT, quindi... Ricordate che, a quanto pare, stiamo giocando a D&D. Visto che Edo e Jump sono di là a fare i cazzi loro, intanto Gino, sentiamo la tua storia per il pubblico a casa. Visto che non c'è nessun altro, niente, hanno cresciuto questa mezza dozzina di druidi barbuti e gli stavo un po' sul cazzo per vedere la mia genia. Perché simboleggiavo, diciamo, lo spirito di un elemento rispetto agli altri. Ma nonostante questo, il loro leader, che si chiamava Rolig Tilsims, per gli amici Fred, chiamiamolo Fred. Poi me lo scrivi perché... Fred, scrivi Fred. Fred in norvegese vuol dire pace. Fred era solito mostrare benevolenza verso di me, diciamo. Soprattutto durante i momenti di addestramento, raccoglimento, eccetera. E quindi era... Niente, mi ha addestrato con cura, così, con calma, con dedizione. Fino al giorno non mi sono incazzato e sono andato via. Perfetto, perfetto. John, se tu vuoi aggiungere qualcosa... Sì, voglio fare una roba normale perché le cose strane le hanno già fatte. Giustamente. E ovviamente mi ha addestrato a combattere il mastro d'arme Agon della casata Le Famb. Giustamente. E la scelta della divinità è dovuta alle scelte storiche della mia casata. Certo. Non mi ha insegnato lui tutto quello che so, ma è il mio dio ovviamente che mi ha insegnato a usare. Ovviamente. E poi, come ben sai, io me ne sono dovuto andare perché o diventavo prete o... Niente, perché non eredito un cazzo. Giusto. Perché sono figlio mezzano. Giustamente, giustamente. Ah, comunque, se posso aggiungere un pochino. Se vuoi, quando vuoi. Io sono finito su una nave, insomma, è un po' inusuale un minotauro su una nave. Perché ma neanche troppo, dire vero. Ah, no? Pensavo, allora niente, non sono... allora fottiti, master di merda, allora non ti dico niente. No, nel senso, tu sai che di solito non ce ne sono tantissimi in giro, ma quelli che ci sono sono ben accetti perché hanno un senso dell'orientamento super sviluppato. E... Sì. Comunque sì, non è che ce ne siano tantissimi, quindi tecnicamente è raro un po'. Perché il villaggio dove vivo è stato attaccato quando ero molto piccolo, mm-hmm. e i miei genitori mi hanno abbandonato, diciamo, su una specie, diciamo, ero in un porto, mi hanno abbandonato a caso in un porto che ovviamente non so quale perché ero troppo piccolo. E solo da lì sono stato accudito da questa ciurma che mi ha cresciuto come un figlio e poi mi ha insegnato il mestiere. Tipo leggenda del pianista sull'oceano, una cosa... Sì, più o meno sì. Senza il pianista. Benvenuti a stasera puntata Beautiful di D&D. Sì, ho una domanda per te. Che numero è? Vai, spara. 7. Okay. Ok, ora che conosciamo un po' meglio i nostri personaggi, cosa che continuerà ad avvenire se continuate ad avere me come master, direi che possiamo procedere con il riassunto della sessione precedente. Il riassunto che ho scritto è venuto anche abbastanza corposo perché... Wow. Nella sessione precedente sono successe parecchie cose. Ah sì? Ce lo ricordiamo, principalmente una, però... Non è una sola che abbiamo legnato un tizio che... Vediamo di andare per ordine. I nostri eroi hanno sopraffatto la bestia sulla loro nave, solo per ritrovarsi nella sua tana. Circondati da calamari giganti e in balia della tempesta, le scialuppe dell'avvento di Tramontana sono destinate a schiantarsi sulle rocce dell'isola di Trisk. Nonostante i loro sforzi, John, Gino, Pyre, Gallifrey e Barbagianni perdono i sensi. E al loro risveglio scoprono di essere stati salvati dalla generosità di Tobias e della sua famiglia, che hanno messo al riparo il gruppo nella loro stalla e hanno provveduto a curare le loro ferite. La situazione però non è delle migliori. La tempesta li ha privati della maggior parte del loro equipaggiamento e Tobias chiede loro di restare nella stalla e non farsi vedere dal resto del villaggio, temendo ripercussioni verso la sua famiglia. Il gruppo decide in definitiva di soddisfare la richiesta di Tobias, desiderosi di ricompensarlo per il suo aiuto e con la promessa di essere aiutati ad uscire dal villaggio durante la notte. John, Gino, Paere, Gallifrey e Barbagianni a questo punto restano nella stalla ad aspettare la notte soli, o almeno così credono, fino a quando una voce in fondo alla stanza richiama la loro attenzione. Dal nulla appare un uomo che si presenta come Zed, membro dell'alleanza dei Lord, e con delle informazioni per loro. Zed afferma che Tobias non è quello che dice di essere e che ha ingannato i nostri protagonisti col solo scopo di tenerli rinchiusi. Pensando sia stato veramente un cane. Ma da cane l'hai trattato. Cioè, io non lo so, le vedo Zed lo stupro. Non è quello che deve essere. Non poteva dire è un nano di merda. Tecnicamente non lo sapeva neanche lui. Sì. E poi Tobias era il padre, quello altro. Sì, sì, tutti buoni. Intanto, lui e la sua famiglia non sono altro che agenti degli Zentarim. Zed rimane sul vago su come sia venuto in possesso di queste informazioni, ma si dimostra deciso ad aiutare il gruppo, fornendogli armi per la fuga, in cambio solo del loro supporto. Sembra infatti che Zed sia interessato agli avvenimenti sull'isola, nello specifico quelli riguardanti un'organizzazione conosciuta come la Società del Kraken, della quale, secondo lui, fanno parte tutti gli abitanti dell'isola e per cui desidera un aiuto per intrufolarsi nella loro base segreta. Zed non rivela però altre informazioni, chiedendo al gruppo di incontrarlo quella notte e lasciandoli dopo aver aperto la porta della stalla. Il gruppo rimane un attimo perplesso riguardo tutta la situazione, e l'arrivo di Bran, figlio piccolo di Tobias, offre loro l'occasione di ottenere qualche chiarimento. Il bambino sembra però non avere risposta alle loro domande e la tensione lo porta rapidamente alle lacrime. Commosso, Paere cerca di consolarlo, solo per ritrovarsi con un coltello tra le costole. L'halfling, magistralmente camuffato, si divincola facilmente dalla presa del party, dirigendosi rapidamente verso la fattoria al grido di «Ci hanno scoperto!». Non l'ho letto bene. Quindi, se ricominciando esattamente dove abbiamo abbandonato la volta scorsa, siamo in pieno combattimento e Gino, è il tuo turno. Ah, ok, quindi stessa iniziativa. Sì. Gino, tu sei sulla porta della stalla. Sì. Il bambino / halfling è appena scappato fuori. Gallifrey gli si è teletrasportato incontro. John ha cercato di colpirlo, no, l'ha colpito, ma l'Halfling sembra essersi miracolosamente schivato la maggior parte dei danni e adesso si sta dirigendo rapidamente verso la casa. È praticamente sul margine della porta della casa, lo vedi ancora, però è il tuo turno, Gino. Posso fare, ce ne sono la range per Storm Whip per tirarlo indietro verso di noi? Quant'è Storm Whip? 15. Porca dove, aspetta, cerco un attimo. Che non capisco se questo è il range o è quanto lo tira indietro. Il range è 30 feet, quindi no, è troppo lontano. Troppo lontano, è più di 30 feet. Quant'è circa la distanza? Aspetta, sto pensando. Sessanta piedi al massimo. Quindi posso fare 30 e tirarlo indietro? Sì, puoi fare il tuo movimento e tirarlo verso di te. Aspetta, vedo di quanto lo tiro indietro. Di 10 feet. No, allora non conviene, perché poi sarebbe comunque a 50 dal granaio. Ah, un attimo, allora. Bisogna scegliere bene qui, perché deve morire. Bisogna scegliere molto, molto bene. Questa punta non funziona per un cazzo. Posso creare acqua davanti a lui? Aspetta, fammi vedere. Voglio fare tipo un muro di ghiaccio. No, ok, niente. Credo che riesca a fare tutto in un turno, purtroppo. È morto qualcuno? Sì. No, qualcuno sta per morire sicuramente. Qualcuno sta per morire. Fireball! Wall of water. Sì. Ah, sì. Allora, Wall of Water 60 feet. Mm-hmm. Posso fare un muro che è lungo 30 feet, alto 10 feet, cioè, spesso un piede. Ok. Il cioè, dentro il muro è terreno difficile. Qui deve, diciamo, cioè, spostarsi. Sì, nel senso, dentro il muro. Specialmente impiega due feet di movimento per attraversarlo, non è che lo blocca. Però, cioè, scompare. Sì, cioè, va la mia dimensione. Cioè, io posso interagire con la mia. Un cazzo, ma niente. Porca forza, sono stata la merda. Vabbè, vada lì, ciao. Fanculo, old person. Perfetto. Basta. Ah, ci sta, paralizzalo così non ce ne vengono. Tienilo fermo. Tocca a me? No, che poi... aspetta, una cosa. No, aspetta, deve fare... Marco, ti posso chiedere una cosa? Dall'ultima volta, mi puoi rimembrare se l'abbiamo effettivamente colpito? Sì, John l'ha colpito. Sì, l'ho sprangato di brutto io. Top! Comunque, perché giusto te lo devo dire. Allora, prima che tu... visto che eravamo saliti di livello... Sì. Due sessioni. Ti voglio informare di quello che ho fatto, perché ti avevo detto forse prendo quel. Ho preso come altro incantesimo Blink. Buon per te. E ho sostituito un incantesimo che posso fare ogni volta che salgo di livello. E Cloud of Daggers, quello che era di secondo. Bravo. Di secondo con Sleep di primo. Bravo. Fantastico. Che... complimenti. No? Cioè, bravo. Mica se sono a studiare. Ma hai studiato quello che dovevi studiare. Ho studiato ciò che c'è da studiare. Marco, io mi ero segnato la mia vita prima dopo l'avanzamento di livello. Ora, cosa devo tenere? Ah no, ok, siete al massimo. Avete fatto un riposo lungo, tecnicamente. Quindi faccio quella dopo l'avanzamento di livello. Sì, quella dopo l'avanzamento di livello. Quindi al massimo, a parte di pure. CD 14 di saggezza. Okay. Ti dico già, se fai di meno tira di nuovo, perché uso l'Aki. Se ne fai di più, scusa. Ok, dicevo, siete tutti al massimo, a parte Pyre, che ha ricevuto una coltellata nel fianco. Mi fa un bel po' male. Ah, no, vabbè, non tantissimo. Ok, Old Person, quindi Wisdom Saving Throw. Ok, dammi un attimo. Dimmi se devo togliere il mio Loki. Ha fatto. Aspetta, che ho perso le statistiche. Dov'è? Quanto vale Wilson? Ha fatto 13. Quindi non devo spendere il Loki. No, ha fatto 13. Ok, quindi tipo dico fermati, testa di cazzo, e lui si ferma, tipo in mezzo... Ok, vedete che l'Halfling sta letteralmente per lanciarsi dentro la porta di casa, quando i muscoli si rigidiscono e si ferma nella posizione proprio di corsa sull'uscio di casa. È spaventato. Io mi avvicino tranquillamente, proprio camminando, e faccio tutto vostro. Ok, giusto per darmi un'idea, siete tutti, no, non tutti adesso, Pyre e Barbagianni, siete sull'uscio della stalla, che è circa, diciamo, 60 piedi dalla casa. Ok. Gallifrey è un po' uscito... Sì, Misty Step ho usato. Sì, esatto, è uscito usando Misty Step e si è allontanato dalla stalla, è a 60 piedi dalla stalla e circa 80 piedi dalla casa, perché si è allontanato in un'altra direzione. Ok. John è tipo a metà tra Gallifrey e la stalla e Gino invece si sta avvicinando alla casa. Perfetto. Il che significa che Gino, tu spendi il tuo movimento per camminare con baldanzosità. Sì, verso... cioè cammino proprio guardando per chi, tipo un gladiatore. Perfetto. Ti presento la pera. Tu Gino, che mi sembra che abbia tu abbia una percezione abbastanza alta, percezione passiva di... 13-18 con vantaggio, mi sembra. No, la percezione passiva è la tua percezione più 10. Ah, la mia percezione più 10 proprio? Ah sì, 13. Ok. Alla fine non è così alto. vabbè. Noti dalla finestra della casa un po' di movimento. E delle figure che sembrano muoversi e tu e John mi fate un tiro salvezza sulla destrezza. Ah, sono morto. Vabbè. Mi sono l'app RPGDR recentemente aggiornata per supportare schermi molto più schermi e farò un bel 13. Ma io ho fatto 19. Hai un più 3, Ciccio? Credo io. Quanto è vicino a te? Non è così vicino a te. Dai, no? È andato verso la casa, tu ti sei allontanato dalla casa. Perché io e lui dobbiamo farlo? Perché? Te lo sto per dire. Aspetta che... la CD è... 14 nel caso vi interessi. Tanto per ok, quindi Gino l'ha superato, John no. Ok. Gino e John, vedete che da una delle poche finestre della casa una figura, vedete della luce che si condensa e un fulmine, un arco elettrico attraversa la pianura, non so dove cazzo siete, colpendo te e Pyre. E te e John. Non è che può fare così. Counter spell. Qua questo parla. Oh, non gamma, che fretta c'hai? Poi mi devo subito slot. Vediamo. La riesci a vedere? Fammi un tiro di percezione. Hai detto, si intravede dalla finestra. Per Gino e John. Ma anche lui è fuori. Sono fuori. Ma di nuovo ti sei allontanato dalla casa di nuovo. Fammi un tiro di percezione, non è detto che... Percepisci. No, oggi danni normali. Vabbè, ma easy, quanti danni vuoi che faccia? Dai, tranquillo. 16 di 12. Che vuoi dare normali? Vedi poi che succede? Hai ragione. Aspetta, che devo fare? Cioè, percezione c'ho? Un cazzo di minde. Te l'ho avuto un po' di percezione. Ah no, il cazzo, no. No, ok. 7. No, con 7 purtroppo la tua attenzione era tutta rivolta allo gnomo, all'halfling che si stava immobilizzando sulla porta e non hai notato che dalla finestra... Perché mi ero sporcato la scarpa, stavo guardando la scarpa. Quindi, Gino, per te sono, tu che l'hai superato, sono 15 danni di tipo elettrico, per John sono 29 danni elettrici. Purtroppo io poi sono tipo acqua, quindi 20 danni fa male. Non è il contrario, non siamo la porca. Gallifrey, tu a questo punto noti l'arco elettrico che si che viene esploso dalla finestra della casa. Scusa, comunque dalla... 29 diviso 2 fa 14. Io rotondo per... Va bene, va bene, 14, Gino, hai preso 14. Sempre a citare. Gino, hai preso 14 danni. 14 danni? Notate tutti adesso che la figura che ha sparato un arco elettrico dalla finestra della casa, e questa stessa figura usa il suo movimento per scavalcare la finestra e uscire all'aperto. È una donna che non avete... visto prima, potete immaginare che sia quella che Tobias si riferiva come la moglie. Ma Gallifrey, tu sei particolarmente interessato perché, oh mio Dio, sta tenendo in mano il tuo bastone. Porca madonna, ma pazzo! Uso 10 punti di stregoneria. Aspetta, fai vedere il minutaggio. Va bene, a 31 minuti devo cancellare una bestemmia. Vai, tocca a te. Vabbè, mancava Anna, però. Ah, come siamo bravi. Vai, tocca a te. Allora, ti prego. Posso parlare nel frattempo? Sì. Vai, ti prego. Cioè, ti do tutto quello che vuoi se lo riprendi tutto. Ti do tutto. Io propongo, cioè, nel senso, non è che non lo ascolto, proprio non lo percepisco, cioè, non so se esiste. No. Allora, quanto sono distante dal tipo bloccato da Jacopo? E anche tu eri lì all'interno lì all'ingresso della stalla, sei a 60 piedi circa dal tizio. Ok, uso il mio movimento, la mia azione per raggiungere il tipo. Perfetto. Poi uso sei arrivato addosso. Passi anche di fianco alla donna che ha sparato. No, non me ne frega un cazzo della donna. Ma stiamo scherzando. Vabbè, il tipo è già bloccato, quindi c'è. È restrained per quanto dice le regole. Allora, io praticamente faccio questa cosa. Gli prendo la testa così, e poi col piede, così cerco di staccargli la testa. Guarda, ti do ispirazione. La chiameremo... scusa, è troppo dire. Lo chiameremo un colpo disarmato. Non ho capito come la prendi, scusa. Allora, prendo la sua testa così. Poi tanto lui è basso, io salto, che cazzo me ne frega. Gli metto la gamba sulla spalla e poi tiro. Ok. Chiamiamo un colpo disarmato. Allora, questa è una regola a cui stavo pensando un po'. Un attacco disarmato nella quinta edizione è 1 più la vostra forza di danni. Ma se siete se avete la proficiency nelle armi marziali, vi faccio tirare un D4 più la vostra forza, perché è idiotico che i guerrieri, quelli addestrati, non sappiano picchiare più duro di un popolare. Semplicemente rimuovere la testa e ucciderlo all'istante? Aspetta, calma, voglio dire, non è da tutti strappare la testa di un uomo così. Una curiosità, ma è piccolo, cioè. Ma una curiosità. Però... se tu usi un old person come ha fatto lui, tecnicamente io potrei avvicinarla con un coltellino e tagliargli la gola con molta disinvoltura. Sì, è come se stesse dormendo, cioè non fa niente. Non è che è completamente immobilizzato, è tipo fa fatica a muoversi, ma può comunque cercare di lottare. Infatti, devi farmi un tiro per colpire, hai vantaggio. Non prendo le niente quando. 23. No, magari fai critico. No, è paralizzato, non può muoversi, è paralizzato proprio. 23. Non puoi neanche parlare, leggi un po'. Hai fatto 23? Ispirazione. Che hai tirato con vantaggio. Ispirazione. E che ci devi fare? Ah no, scusate, è paralizzato, non è restrained, ecco, ho sbagliato io. Aspetta, fammi ricontrollare. E quindi è meglio o peggio? Peggio. Meglio, quindi muore. Quindi non si arriva che ti devi fare, però non te la fa la mano. Non è mai successo. Ma perché infatti dà ispirazione a uno che fa 20? Perché se faceva 20 naturale, la testa va. Ah no, ogni tiro contro ogni attacco contro una creatura paralizzata è automaticamente critico. Sto male. Beh, come dire. Marco, posso continuare a fare così dopo il fulmine? Tipo arriva il fulmine. Scusa. Ok, puoi tirare 2 di 4 più la forza se vuoi. Stai comunque cercando di strappare una testa a mani nude, non è proprio una, un'impresa. Ma per non deve avere senso, cioè deve essere una cosa da storia. Cioè questo è per questo gioco, se non metto a giocare a Skyrim più tempo, quello è cheat. Ovviamente sommo la forza una volta. Sì. E dai, Marco, su, è paralizzato. Allora, dai, è Natale. È critico, è Natale. Allora 11 danni. Quanto? 11. Al collo. Bene. La testa, dai. 18, praticamente. Senti qualcosa che si strappa. La testa non viene su, però senti proprio lo snap di qualcosa che si strappa. Non ha decisamente gradito. Vero. Ok, questo è il turno di Pyre. Farlo? Il secondo attacco posso usarlo? Ah, giusto, è un secondo attacco, assolutamente. Io, di nuovo. Secondo me il secondo attacco è spinge con l'altro piede. Beh, ci starebbe. Allora, no, è critico automatico, no? Tiro con vantaggio e se colpisce è critico automatico. Okay. È così che funziona. 20. Colpito. Vabbè, colpito, quindi... Sempre 2 di 4, più la forza? Sì. 10. Ok, al primo non è venuta via. Al secondo... C'è tipo tranquillamente. Simba. Bene. La fascia di nervi della colonna vertebrale che praticamente penzola sotto lì. Anche la spina dorsale. Esatto. Questo mio gesto spiegherà il mio prossimo perché il mio prossimo livello sarà da barbaro. Okay. Senti qualcuno in lontananza che grida fatality. Bene. E ricordo che LP è legali buoni. Buoni. No, io sono neutrale. Io sono caotico. Io sono LP. Fire. Tu sei tutto esaltato dall'aver staccato la testa di un uomo a mani nude, che voglio dire, è un buon motivo per essere esaltato. Oggi arriva un attacco. Quando la porta di casa si spalanca con un calcio e da dentro la casa praticamente ti carica Tobias, quello che prima era Tobias, ma stavolta impugna uno scudo nel braccio sinistro e una spada nella mano destra. E oh mio Dio, tu hai già visto quella spada? È la spada di John. È la spada. Cioè, no, John, la spada. No, l'importante è lo scudo. Dov'è il mio cazzo di scudo? Lo ha lui. No, quello che ha in mano è uno scudo di legno normale. Non... Ok, va bene. Però, dicevo, dovevi scattare verso di te. Sì. E, che miseria, qua troppe schede aperte. Allora, ti è addosso e prova a colpirti. Ma voglio vedere cosa c'è uscito. Dai, vediamo cosa c'è uscito, puttana. Un... 16 ti colpisce? No. Aspetta, no, l'armatura ce l'ho, sì. Ok, con 16 non ti colpisce, allora ci riprova. Con un 26 ti colpisce? No. No. Sei... No. Sì. Ok, allora. Schiva. No. Tira per schivare. Non c'è niente. Apre un altro gioco. Spara. Sono 14 danni e mi fai un tiro salvezza sulla forza, per favore. Addirittura. Ti posso chiedere una cosa nel frattempo? Qual è la distanza tra Pyre e la puttanella? In piedi? 10 piedi. Cazzo. Sì, oddio, è stato bello vederti combattere l'altro fianco. Arrivo subito un attimo, non trovo la materia. Vedi, vedi? Questa, la cosa del brutto dello stregone è che solo quando diventi a livelli alti capisci l'importanza di stregonerie e delle varie cose che dovevi prendere. Perché c'era quello che ti permetteva che lo so, se lo devi proteggere i tuoi amici. Non naturale. 20? Sì. Oddio, sì. L'hai superato. Vedi che col primo colpo ti manca, anche perché tra te e lui c'è ancora il corpo completamente immobilizzato dello gnomo, dell'halfling senza testa però, che la testa ce l'hai in mano tu, che ti aiuta a schivare il colpo. Il secondo colpo, vedi che è mirato alle gambe, cerca di farti cadere, ma tu riesci, subisci i danni ma riesci a resistere al colpo. Ah, aspetta, scusa, che con cosa mi ha picchiato? Con la spada di John. Ah, ok. Mm-hmm. Sì, vabbè, la riduzione danni dell'armatura si applica comunque. Sì, sei tre danni in meno. Allora, io a questo stronzo, sai che gli faccio? Mm-hmm. Io uso riposte. Okay. Posso tirargli in testa la testa del tipo? Ti prego. Certamente, certamente. Anzi, no, non gliela tiro. La uso tipo... tipo se fosse un casco, no? Così, stum! Perfetto. Benissimo. Sto male. Ed è sempre un D8 del riposto? Oppure... No, la testa è leggendaria, quindi... Ricordati da poco. In più, è un'arma leggendaria. Devi fare un tiro per colpire, innanzitutto. Sì, vabbè, sì. 16. Colpito. No, aspetta, colpito. Sì, colpito. Benissimo. Colpito. Ed è sempre un D8. Ti do un D6 perché la testa è leggendaria. È un D6 più un D8 più la tua forza. Cioè, un D6 in più. Perché la testa è leggendaria. La testa fa un D6 di danno. Poi tu aggiungi un D8 perché è la tua manovra. E poi aggiungi la tua forza. Ah! Che merda gigazzo. 4, 8 danni. Mamma mia. Beh, oh, spero. Una testa. Vedi che più che il dolore fisico è più quello psicologico dell'essere stato colpito sulla testa di quello che era un tempo un suo compagno, probabilmente, che influisce di più in questo momento. Barbagianni, tocca a te. Quando lo sto capendo? Dicevi che è stato il primo della scorsa volta, Gallife. Dicevi che il nemico è a 10 feet di un mio alleato, vero? È 10 feet da Pyre. Cioè, quale? La donna che sta usando il bastone di Gallife? Sì. L'uomo con spada e scudo è in corpo a corpo. Tobias è in corpo a corpo con... Però dicevi che io, cioè tutti noi non abbiamo più gli oggetti, quindi io non ho le armi. Tu hai un pugnale che ti ha dato Zed, se l'hai preso. Ok. Niente, io quindi posso fare sneak attack sul tizio. Come? Piano. Tipo, già è a 60 piedi da te, però. Non capisco un cazzo. Tu sei sulla porta della stalla. Devi arrivarci. A 60 piedi da te ci sono Pyre e il tizio con spada e scudo che stanno combattendo, e 10 piedi più verso di te rispetto a loro, ma lì a fianco comunque c'è la donna che ha lanciato il fulmine prima. Non andare alla sua donna. Però è lei più vicina. Cioè, vabbè, trovo vabbè. Prima lei del tizio. Il tizio è dietro la tipa. Sì. Ragazzi, io ma spunzio come fonte sei. Ah, quindi non è che posso andare dal tizio perché la tipa mi blocca, dici? No, la puoi benissimo passare senza avvicinarti. Cioè. Ah, beh, e allora non ci arrivo col movimento fino al tipo. Devi usare due movimenti. Ho detto, non mi interessa. E puoi anche fare l'attacco, dici di no? Puoi usare dash come azione bonus, giusto? Se non ho visto più danni se li no, non ce la faccio attaccare con l'azione bonus. Sì, puoi usare dash come azione bonus, quindi fai movimento, azione bonus e poi attacco, puoi attaccare. Fai così, Olimpia, pensaci tu Marco. Attacco. La donna o l'uomo? Il tizio, con il attacco. Ok. Come... Tiro per colpire? Un imperatore che sta parlando per vedere quello che vuole. Dove sta? Un imperatore che stacca la testa a un leone. Dove si chiama? Questo lì questo è quello che voglio vedere. Io sento come un cari. Ma dopo ci possiamo 13. 13? Sì. Nonostante Pyre l'abbia appena colpita con una testa, riesce a frapporre il suo scudo al tuo attacco e ti dirò di più, usa la tua apertura perché hai usato la tua apertura per riattaccarti dopo che tu hai attaccato lui. Va bene, questo è un movimento, azione, movimento, giusto? Con un 14 ti colpisco? No, un 14 15, no, non mi colpisce. Posso nascondermi? No, perché l'azione bonus l'ho già usata. Esatto. Quindi, guarda, prego. Ne ha fatto, perfetto. Mi ha reporto per AFK. Ok, dalla stessa finestra da cui è uscita... la donna di prima, esce quella che conoscevate come la figlia di Tobias, solo che in questo caso vedete che non indossa più i vestiti da contadina che indossava prima, ma un'armatura in pelle, e tiene in mano un arco e una freccia che punta verso... Dai, è qua, porca puttana, spacca la faccia. Verso Gino. Top. Che punta verso Gino e scocca. Penso di chiedere una cosa, Marco. Con un 17 colpisco? Io mi fondo col bastone deciso. Ti chiederò una cosa. Posso usare un punto di ispirazione per fare questa cosa? Lei mi tira la freccia, la prendo, la guardo e la spezzo in mano. Cioè mi giro, la guarda fisso e la spezzo in mano. Purtroppo in D&D c'è un'abilità specifica. Sì, vale. Lo giochiamo tra di noi. È come la scorsa volta che Sava rompeva il cazzo perché tu non potevi fare le mille parole. Guarda, benissimo. Uso ispirazione e i tre lucky per comprarmi questa scena. Cos'è che vuoi fare? No, non ce la fai. Però puoi allenarti, magari la prossima volta che ti tireranno una freccia potresti provare ad afferrarla con le mani. Oppure prendere qualche livello da monaco. Vuoi distruggere i soldi? Cioè, credo ci sia un incantesimo che te lo fa fare. Sì, no, c'è un oggetto e c'è il monaco che lo fa a un certo livello. E c'è un incantesimo che lo fa. Un incantesimo? Non mi ricordo. Non sono sicuro. Sì, la scena nel contesto ci sta, ok. Unlucky. Unlucky. 17 per colpire. Unlucky. No, lo puoi usare una volta sola sul tiro, mi spiace, non puoi farlo 27 volte. Una sola volta per ogni tiro. Quindi 17 per colpire. Colpito. Ok. No, aspetta. Unlucky era che... Ah no, potevi scegliere il tiro totale. No, che perfetto, 17. Perché sennò avrebbe fatto 20 naturale, quindi sì, hai preso 17 per colpire. Quindi tu ti giri di scatto, provi ad afferrare la freccia, non ci riesci minimamente perché ti si conficca nella spalla. No, non mi giro di scatto. Cioè, lei mi colpisce, mi giro piano e la fisso. Fai proprio... Ha! No. Allora, visto che la scena è così, ti prego, visto che non può fare quello che fa, lui cerca di prenderla, poi gli arriva tutto il e la pizza ti porta la freccia sul collo. Che... Sono 6 danni perforanti, ma mi devi fare un tiro sulla costituzione. per vedere se ti buca. Io ho un sacco di costruzioni, non so. Poi diciamo il fisico. Ah! Ah! Uno naturale! Non lo so. Uno. Cioè, hai fatto l'archi e hai fatto uno di nuovo. Io ti riporto. Wow, bravo. Vedi che succede quando uno si lancia? Senti un dolore bruciante. Per un attimo pensi che sia il tuo orgoglio per aver fatto questa cosa. No, poi ti accorgi che la freccia era avvelenata e quindi sono 10 danni da veleno. Ti prego, faglielo fare, che mi cerca di prendere, però non pisce, lo perfora tipo da parte a parte. Ci sta, cazzo. Eh sì, te l'ho detto, lui fa tipo, oh, e però ha colpito comunque. Tipo così. Ok, siamo, cioè, iniziativa completata, Gallifrey, tocca a te. Ah, oddio, AFK andavo, se non toccava a me. Ora, io mi scuso col pubblico e con i miei compagni, ma è il tempo di morire, il tempo è giunto, quindi Firebolt sulla puttana. Come Firebolt? Stai calmo, c'è tempo per l'altro incantesimo, non da girare, c'è tempo. Cioè, Giambo, tu bro, cioè, tu la fai annusa tantissimo, ma poi spari la Firebolt, cioè che è? Sì, faccio... Sì, ma è un cagasotto, Giambo. Oh. Cioè, Firebolt su... Sulla okay, puttana, sulla... Sì. Allora... Tiro per colpire. Tiro per colpire. C'è un più 7 che non sapevo negli ultimi 2 anni. Perfetto. È una scoperta che fa sempre piacere. Ma che bello! Ho fatto 16. 23. 23? Ma se non colpisco mi spada, dai. Porco Dio, è vero. Vabbè, anche dove conciliare gli occhi con 23. No, aspetta, aspetta. Ci Devo andare a cambiare classe. Vedi che effettivamente lei alza il tuo bastone a modo di difesa, si crea una barriera magica intorno a lei, ma il tuo Firebolt è abbastanza potente da superare la barriera e colpirlo. Cioè, la usa? Mi sta sputando le mie... Io l'ammazzo, ce l'ammazzo. Ci vorrei sputtare tutti i cazzo di slot. Io ora spello fatto tutto su di lui, così ti sputtana i slot e si rompe il bastone. Ma è con due. No, cioè, veramente, vado a FK per tutta la... Cioè, non gioco più di... Me ne vado, non più senso giocare. Bastone barato, ti meriteresti che si rompe. Ma che bastone barato? Cioè, c'ha shield e uno. Niente. Ma ce l'avevo pure da solo, cioè, capito? Ma se ce l'aveste avuto voi era più OP. Anzi, dopo Gallifrey, fammi anche un tiro di arcana dopo. Nuovo troppo. Ma dov'è di 10? Non lo trovo. E qui. 6. 12. 12 danni? No. 16. Ah, perché aggiungi il carisma. Ah, certo, Kumba. Ah, è fuoco. È fuoco. Io non la Charizard. Come la vedo la situazione? La vedo un po'. Fammi un tiro di Charizard. Cosa vuol dire come? Cioè, la vedo un po' che l'ha sentito sto danno oppure no? Cioè, come gli esplosa un fuoco in faccia, l'ha sentito il danno, l'ha sentito assolutamente. E allora uccidiamola. Ma te l'ho detto, fammi anche un tiro di arcana. Di arcana, sì. Faccio un tiro di arcana. Io arcana non c'ho un cazzo, che grosso. Giusto per vedere. 9. Ah no, 10, scusa. Ok, è abbastanza per capire che effettivamente lei c'ha anche tipo una specie di campo di forza intorno a lei. Ti fa intuire che effettivamente potrebbe anche aver usato Mage Armor, probabilmente dal tuo stesso bastone. Tu fai, c'è il cazzetto. John, tocca a te. Penso it's time to die. Uso dei punti di stregoneria. Due punti di stregoneria e i casco Fireball. Fireball su di lei? Oh, potevi farlo prima. No, ti volevo chiedere: è come su Skyrim che quelli che stanno bruciando hanno più danni da bruciore? Cioè, I nemici in fiamme hanno danni aggiuntivi. Ok, chiedevo. Ma raga, a parte questo gioco, anche tutti i giochi, avete i manuali, potete leggerli, Dio buono. Ma che gappere, ma ci si diverte. Cioè, deve essere una cosa che il manuale è una linea guida, cioè non è una cosa fissa. Cioè, se lui mi dice che io posso lanciare 5 fireball, io lo faccio. Comunque... Non puoi farlo. Te lo dico giusto per sicurezza, non puoi farlo. Il problema è che Marco segue troppo le regole, non la regola della figaggine. No, è giusto da una parte, ma dall'altra. Ma la testa è stata strappata. Quello è vero, infatti per questo l'ho molto apprezzato, devo dire. Una testa fu molto strappata. Voglio dire, quando c'è la possibilità di strappare una testa, io sono assolutamente d'accordo. Non mi opporrei mai a una cosa del genere. Eh sì, perché l'altro l'ho perduto per sempre. Sono venuto un disegno. Sei. Cocco, piano, Cocco, cosa stai facendo? Piano. Ascolta, cosa... Giaffe, fermati un secondo. Stai lanciando una fireball. Stai lanciando una fireball. Sì. Dove? Dalla puttana, ma che cazzo domanda? Perché se la tiri esattamente su di lei, becchi anche Tobias, Paire e Barbagianni. Se la vi... Io l'ho detto. Okay. Io okay. Ho detto... Mi scuso, ma... Sto a 17. E anche Gino, probabilmente. Ci puoi io mangiare a liscere il pick su di te? Sì, vai. Ok. Fire, Barbagianni e Gino, fatemi un tiro di salvezza sulla destrezza, per favore. Ce n'ho 8, cioè sto già a 4. 17. E ho fatto la bellezza di 31 danni più 4, sono 35, amico. Ok, qual è il DC? Cioè, hai fatto 35 danni ai nostri compari. A tutti. Comba, devi superare 15. Serio, io ho 40 punti di vita. Ma in destrezza? Destrezza. Non ti dirò così la prossima volta. Allora, datemi un attimo. Andiamo, che tu sei coglione. 1. Come Italia 1. Ma okay. Posso usare il no. Guerriero ce la fa. Amico, mi puoi permettere di fare una cosa oppure è finita la mia? Aspetta. Notizia. Hai detto 15? Ok. No, io ho allora. Direzione. Amico, ti posso chiedere una cosa? Cosa? Ah, ok. Ma sei morto sicuro? Vabbè, allora è adottibile, ormai è finito. Sei morto, ti posso fare. Secondo me è un'azione bonus? Yes. Quindi potrei usarlo in teoria? Nel tuo turno. Ah, comunque nel mio turno, ok, niente. Ciao, sono morto. Allora, chi ha fallito il tiro di... Aspetta, fare questo, ti posso chiedere una cosa? Posso usare un po' di stregoneria per cambiare fino a 4 dadi che ho tirato? Se ce l'hai, puoi farlo, cosa vuol dire? Se c'è un'abilità che hai, sì. 4-6, cioè, senza peggio. No, perché ho fatto 2-3. Ah no, aspetta. Tiro un numero di dadi di danno, aspetta. Pari al distruttore di carisma. Quindi se ho 4 di carisma, posso tirare fino a 4. Sì, scelgo 4 di danni di merda e li ritiro. Non capisco perché. Per fare più danno. Se ho 3... Si mi ricordava il fatto che tu hai ucciso me. Galli, chi c'è? Giampe. Cioè lui vuole uccidere tutta la squadra. Ma io voglio uccidere e poi basta. Io ho ucciso tutti. Avere la tua attenzione in questo momento mi farebbe comodo. Quante metamagie puoi applicare ad una spell? Una sola per spell. Puoi applicare a una spell? Bella domanda questa, Marco. A me sembra che puoi applicare una metamagia ad un ogni spell. E tu hai applicato quella per usare Fireball come azione bonus. Ok, cioè non mi permetto di contraddire il tuo saggio volere, però chiedevo, cioè nel caso... Quindi è ufficiale. Se avessi usato Fireball nella tua azione principale, allora sì, avresti usato ufficiale. Però là non c'è scritto, cioè c'è scritto solo che, visto che ci dobbiamo andare al costo, che non posso riutilizzare la stessa metamagia sulla spell. Però, cioè, vabbè, cioè no, non fa niente, perché potrei sbagliarmi, non mi ricordo di male memoria. No, è lo stesso perché ho ammazzato i tuoi. Quanto 10, quanta era la difficoltà? 15, capito. Marco, io però voglio usare Uncanny Dodge sull'abilità del povero Jumper. Ma no. È scritto proprio sul manuale. Puoi usare una sola metamagia per ogni spell che lanci. Quindi, chi ha fallito il tiro, prenda danni pieni, per favore. Però io ho Uncanny Dodge. Una cosa alla volta. La tizia viene completamente avvolta dalle fiamme e prende fuoco, grida, sta urlando di dolore, cade a terra. Il guerriero si ripara con lo scudo e con il corpo di Pyre principalmente. Tu puoi usare anche Uncanny Dodge per ridurre di metà il danno che hai preso se hai fallito il tiro. Se hai avuto successo lo riduci a un quarto. Quindi a quanto si arrotonda? Per difetto. Hai avuto successo? No, ho fallito. Allora 15. 15 danni. Ah, ok. Ho fatto 35, cioè non voglio in realtà farti del male. Ah, avevo capito 31. No, 35. 31 più 4, perché è dato da fuoco. Ah, giustamente, 35, allora sono 17. Scusami. Però non volevo avere anche gli altri per 3 droghe. La puttana da sta in piedi? No, la tizia è avvolta dalle fiamme, sta urlando, si sta dimenando per terra. Sì, sì. Quando hai visto dalla puttana? Minchia, siamo proprio PG-13. Tu eri circa 80 piedi. La posso raggiungere? No. Non nel tuo turno, puoi fare 30 piedi. Ah, cioè i miei bei 30 piedi? Bene. Ok. Dio santo, John, finalmente tocca a te. Ma quindi questa cosa era metà magia? Allora, è difficile far fare lo stregone. Prima che Jump impazzisse, volevo chiederti se vedevo il mio scudo da qualche parte. No. No, ok, chi è caduto a terra? Posso fare una domanda? Tobias lo vedo di rimarsi un po' dalle fiamme? Devo chiedere, non l'hai detto. Tobias sembra che sia riuscito a ripararsi dalle fiamme grazie al suo scudo e al corpo di Pyre. Io ti riporto. Siamo a livello 6, vero? Yes. Sì. Ok, è caduto solo Edo? È caduto solo Gino e Barbagianni sono ancora in piedi, sì. Tu sei a 0, Edo? Meno 6. Sei a 0 perché non c'è il... E la distanza è? Da te? 60 piedi circa. Vado da lui e lo curo di 20 punti ferite. Me coglioni. Quindi in questo caso vado a 20. Sì. Si rialza? Sì, va a 20. Si rialza. Cioè, sei prono. Sì. sei prono, ma sei sveglio. Grazie, John! Già si beve una birra dicendo che niente, però. John ha fatto questo. L'Halfling non ha più una testa. Gino, tocca a te. Io guardo Edo che sta... Guarda una bestemmia intanto. Dico qualche bestemmia, mi tolgo la freccia dal fianco, guardo Edo e faccio seccare a terra, tiro fermo. Divento un enorme cervo con... le corna ramose, diciamo. Invece di scegliere un grifone. E lo carico il tizio col collo scudo per farlo cadere a terra. Ok, cosa deve fare? Cioè, deve fare un tiro salvezza sulla forza di C14. Ok. E gli faccio 2 di 6 più 4. Fallito. Stanno tirando miseramente. Anzi, no, aspetta. Gli faccio aspetta. Io gli faccio 17 danni in totale, però quindi cade a terra, hai detto? Non so, cade a terra se fallisce? Sì, allora cade a terra e lo fermo. Hai detto 17 qua. Ma io sono un gran bambino, tu te lo fermo. Gino, tu hai finito. Il mago è esploso in, in un mare di fiamme. Pare, tocca a te. Quindi devo tenerlo fermo. Proviamo anche picchiarlo nel frattempo. Vabbè, allora... Vabbè, come faccio a tenerlo fermo e picchiarlo insieme? Lo dici di sopra e comincia a andare stato. Allora mi siedo di tecnicamente sopra... se siccome lui adesso è prono, sì. se tu lo grappli, se tu lo afferri, il suo movimento si riduce a zero, quindi non si può rialzare tecnicamente. Ah sì, si può fare, però devi fare una prova di fisico opposta alla sua prova di, atletica, scusa. Di atletica opposta alla sua prova di atletica. Ah, guarda, atletica va benissimo. Vabbè, poteva andare meglio, però 11. No, ispirazione. Vai, ispirazione. 17. Lui, sebbene sia a terra, riesce a... Ehi, dopo l'ispirazione. È la Madonna che... Boom! No, e quanti punti ispirazione? No, una cosa, un'ispirazione alla cosa. Si fa il lucky sul tizio? No, perché deve essere un tiro rivolto a te. Sei tu quello fortunato, non è Pyre, quello fortunato. Purtroppo ha fatto 20 naturale il tizio, quindi... Ah, ok. Però mi sembra... Vorrei dire una cagata... Praticamente è un tuo attacco, puoi provarci anche col secondo attacco. Ah, vabbè, se ci provo. 24. Ok, l'hai afferrato, siete in lotta a terra praticamente. Quindi è grappolo. Sì, però anche tu adesso sei considerato prono, perché sei proprio a terra assieme a lui nella polvere che sì. Combattendo come due veri uomini. In questa condizione posso usare Second Wind? Sì. No, ok, allora uso anche Second Wind è proprio, sei proprio tu che dici, tipo ti schiaffeggi un attimo e dici, posso continuare, posso andare avanti. Ah, va benissimo. Second Wind cosa sarebbe? Piglio 10. Ok. Piglio da guardia. Tocca proprio a lui. Esso stesso usa Second Wind innanzitutto. Chi usa Second Wind? Tizio. Perché cazzo di merda? Tutti ce l'ha questa cosa? Perché non ce l'ha? Non sei. Scusate. Allora. Fammi controllare una cosina veloce. Ok, quindi allora Pyre sì. Praticamente in corpo a corpo sì. Ma lui sebbene sdraiato prova comunque a colpirti con la sua spada. Okay. Siete entrambi proni, quindi tecnicamente lui ha svantaggio, però ha vantaggio su di te perché sei prono, quindi è tiro normale. Okay. Per cui primo attacco con un 25, direi che ti prendo. Direi che sì. Pa, mi hanno detto sono 15 danni. Uso Perry. Ok, come funziona? Ah, no. Che ti diminuisci di okay. Signor di 8 di danni. Vabbè, ignoro in totale 4 danni, quindi 11. Sì. Okay. Secondo attacco è 24 per colpire, e quindi direi che ti colpisce. Sì. Bello perché sono solo... ho annunciato attaccarmi. Un po' sì, devo essere sincero. Sono solo 7 danni stavolta, purtroppo. Ok. Vabbè, posso fare altro almeno. Posso curare, posso... Dopodiché userà la sua Action Curve per fare altri due attacchi contro Pyre. Con un 26 ti colpisco e sono altri 14 danni. E che cazzo è? E vaggio di nuovo. Aspetta, prima ho detto 15, volevo dire 13, meno 4 sono, erano 9 i danni del primo attacco, scusa, ho sbagliato io. Erano 9 i danni del primo attacco. Quindi, beh, è un po' sì. Beh, togli 2, hai riguadagnato 2 punti ferita che ho sbagliato io a contare. Ok, perché a volte è il fatto del... E con il suo ultimo respiro ancora un altro attacco con sempre 25 a colpire. Dal totale. Madonna, va bene, no, sì. Però e sono sempre 12 danni. Beh, adotto. Se no stavo a 4 punti di vita. Ah, sono ancora giù. Che devo fare? Mi fa 4 attacchi e fa in media 25, cioè che posso farci? Con metà adesso che tecnicamente non è più afferrato perché sei svenuto, usa metà del suo movimento per rimettersi in piedi. Ma che scusami, cazzo, cioè, scusami, posso chiedere una cosa? Può cercare di tirare lui affinché cada proprio su di lui? E visto che lui è un fottuto toro gigante, pesante, beh, guarda che ti accorgi che effettivamente anche Tobias è bello pompato. Annotato. Sì, comunque io adesso faccio una petizione. Jump, per favore, leggi il manuale. E Jump, soprattutto, per favore, non rompere i coglioni. Che non è quello, cioè, se è un gioco di ruolo così, cioè, io mi aspetto che il manuale sia una linea guida, te l'ho detto. Cioè, che ci sono delle regole, alcune, non tante, da seguire. Si rimette in piedi, ma vede che è circondato da John e Barbagianni, quindi resta fermo lì in difensiva, praticamente. Tocca infatti Barbagianni. Il tizio non è ancora morto, vero? Quindi posso attaccarlo. Il tizio è in piedi davanti a te, quindi. Posso usare anche sneak attack perché era in corpo a corpo con... Se lo colpisci, sì. Ma di che... È in corpo a corpo con John, quindi... Ah, sì? Sì, siete tutti lì, praticamente. Ah, vabbè, ok. Gli diamo buona, insomma. Sì, perché sono troppo buono, mi spiace. Sì. lo so. Cioè, questo è andato in corpo a corpo con me, così, per sbaglio. E tu sei andato lì a fianco a Pyre a... Sì, vabbè, ma se mi doveva scegliere su chi andare addosso... Vabbè. Lui tecnicamente... Hai ragione. Vabbè, vediamo se lo colpisce. È il master, fai il proprio cazzo vuoi, santo Dio, è il Dio 18. Adesso lo dice, quando prima non gli andava bene, però no. Ah no, non si è detto, cioè, per quello. Con 18 lo colpisci. Bene. Però sì, tecnicamente non è in corpo, ma... dai, non è in corpo a corpo con nessuno, questa volta gliela diamo buona. Povero Tobias, è quasi morto. Avete ucciso tutta la sua famiglia con cui non era imparentato. Ah, ecco, stavo per dire da dove è uscito un Alfling. Che cazzo di... Cos'è? È recessivo l'Alfling. Quindi. È un carattere recessivo. Pronto? Quanto, scusami? Faccio un D8 più 3, quindi. Non so no, fai, quanti danni fai... fa, ma ti rendi conto? Hai un coltellino di merda e io non ce l'ho segnato sto coltellino di merda, io ho un fioretto perché non hai mai letto un cazzo di manuale, tio Bono. Vabbè, io considero il fioretto è un D4 più, 6, più 3. Ah, ok, Dio, qualcuno mi aiuta, cazzo c'è 5 danni qua. Ovviamente. Che cazzo c'entra, ci sono 6 armi in D&D. Vabbè, gni. Merda, di mi nuovo... giro verso Gallifrey che non ha il bastone. Ah, tiro per... No, mi nascondo, operazione bonus. Wow. Dove? Ti nascondi? Dove? Come qua? C'è sempre un posto per nascondersi. Ma lontanarsi. Puoi provare, tipo, non lo so, a entrare in casa, però ti becchi un attacco d'opportunità di Tobias, perché ti allontani da lui. Vabbè, sto lavando. No, dimmi tu come vuoi. Puoi entrare, puoi superare Tobias ed entrare in casa, cercare un luogo dove nasconderti. O ti puoi andare a Tobias in generale. tipo. E fare finta di nasconderti, tipo così. Non nessuno vi vede. Dai, rimango lì per solidarietà. Perfetto. Vai, rimani lì, e rimanendo lì diventi il bersaglio perfetto per la ragazza. Quale ragazza? Brava, brava. La figlia. La figlia che è... prima... che non era figlia. La, quella che voi conoscete come la figlia. Che tanto, fa un... tanto manca. Che fa un 17 per colpire. Si ha colpito. Ok. E sono... 4 danni perforanti, ma mi devi fare un tiro salvezza. Però io ho un cane dodge. Ok, sono 2 danni perforanti. Che hai già usato in questo round? No, perché appena fatto il turno l'ha recuperato. Ah, lui è il primo? No, ha appena finito il turno adesso. Quindi ha recuperato la reazione. Quindi sì, sono 2 danni perforanti, però mi fai comunque un tiro salvezza sulla costituzione. Ah, sì. Allora, costituzione 17. Superato, quindi Becky, sentisci di nuovo anche tu un dolore bruciante, ma prendi solo 10 danni da veleno. Quindi 10 più i 2 di prima. Esatto. Totale. Totale. Ah, quindi era 8 più 2. Però io non ho finito. No, era 10 più 2. Ah, ok. Sono 12 in totale. Ok, ok. E finalmente lancerò questo benedetto Hellish Rebuke, che non l'ho mai riuscito a usare. Hai appena usato Uncanny Dodge come reazione, non puoi usare Hellish Rebuke. Che palle, però. Perché anch'essa è una reazione. Cazzo. Ecco, questo, stavolta però c'era Gallifrey, tocca di nuovo a te. Allora, io ho 2 azioni. Anzi, cioè, no, scusa Gallifrey, ho dimenticato una cosa. La tizia, vista la situazione, rientra in casa e prova a nascondersi. Sai, un virus sensuale che ti fa spammare il link comunque. Sì. Adesso lo spammo. Spammo. Gallifrey, tocca a te. Allora, sì. Non cazzo, me ne ho acquisto un altro prossimo video. Allora, ti volevo dire, sì, io vado verso il mio bastone, cioè così diretto. Ok, devi usare 2 movimenti per raggiungerlo. Fotte sera, anche 5. Vai verso il tuo bastone. Sì, vado, lo raggiungo. Lo raccogli e senti una musica. Da. E faccio, io lo abbraccio e finisce il mio turno col sorriso e tenendomelo stretto al cuore. Sappi che il tenerlo in mano non ha minimo effetto adesso, perché non sei più sincronizzato con il tuo bastone, devi risincronizzarti. Sei morto. Bella lì. Anche se lo tieni in mano forte, già non succede niente. Ok, John, tocca a te. Lo sai come devi fare per diciamo entrare in sintonia col bastone? Sì, vabbè, deve passare un riposo breve. Allora, senti, ho un tizio di fianco che è ingaggiato con Gava, no? Yes. E poi ho una tizia. La tizia è entrata in casa, si è nascosta. È uno cazzo di ladro, può farlo. Sì. Entro in casa e mi guardo intorno. Ok, entrando in casa però prendi un attacco di opportunità di... Di che? E siete ancora davanti alla porta, ti allontani dal... Chi c'è davanti alla porta? Tu, Barbagianni e Tobias. Ma io non sono ingaggiato a Tobias. Ok, ma per entrare in casa devi praticamente passare accanto a Tobias e dopo... Passo sopra a Tobias. Che? Okay. Ha solo un attacco di opportunità, non è che... No, gli attacco io. Ah, lo sai, lo attacchi tu, va bene. Sì. 18. Colpito. Lo uso a 2 mani, eh. Ok. Perché lui manca solo la pizzeria, solo l'arco. 8, 12 danni. Io ci provo a dire 12 con 12 danni lo trafiggi da parte a parte con la tua spada e Tobias cade a terra senza sensi. Entro in casa. Fai un tiro di percezione per vedere se trovi. Ciao, ma dimensioni 13 gradi, 14. No, faccio io danno a te. Allora, entrando in casa, vedi che ci sono alcuni mobili, un tavolo in mezzo alla stanza, ci sono altre stanze, Sei tipo nel salone principale, diciamo, quello. La sala sarebbe praticamente. Okay. E vedi che c'è un'altra stanza sulla tua destra. Effettivamente immagini che sia dove sia quella che è entrata la ragazza. Provi a dare un'occhiata dentro, ma ora come ora ti sfugge un attimo la visuale, è un po' buia e non c'è il molta mio luce. Scudo. Per ora non lo vedo. Devo dar fuoco a tutto. Va bene. Ok, quello del tuo turno, quindi Gino, tocca a te. È rimasta solo la tizia con l'arco, vero? La sì, ma non la vedi. Ah, come non la vedo? È entrata dentro la casa e si è nascosta. Minimo di attenzione, per favore. Ok. Riesco a entrare dentro casa? In quanto... Certo che riesci a entrare dentro casa. Ok. Puoi decidere se tipo passare dalla finestra da cui sono uscite le due tizie e fare sì, il giro largo dove passo entrate. Passo la finestra. Ok. Hai ancora qualche piede di movimento se vuoi provare a fare un tiro di percezione e vedere se... Cioè devo... Ah, ok. Se la trovo poi posso attaccarla? Posso fare carica? Yes. Ok. La percezione era mia, no, aspetta, forse c'era diversa lui. 4. 17. Ti guardi in giro, vedi che ci sono mobili, alcune ci sono effettivamente delle tende nella delle specie di lenzuola in giro così, ma non vedi la tizia, non vedi la ragazza. Cosa posso sfasciare? Sembra essere una specie di cucina, c'è cioè un tavolo al centro, qualche... Sfacciato un po' tutto. Il mio scudo. Non vedi però, spacchi un po' il tavolo, qualche così, ma non vedi... Ci sono dei piatti sulla credenza, ma non vedi lo scudo di... già, di... No, ma tipo rompo il tavolo, rompo le cose. Sì, lo rompi. Noti, nel rompere il tavolo, noti che effettivamente sul tavolo c'è uno strano oggetto che non avevi visto... Cioè che non ti è mai capitato di vedere una cosa strana. È un cerchio di metallo di circa queste dimensioni. Ah. Un cerchio di metallo con un oggetto che sembra una specie di pietra. Cioè, non è vuoto, non è un cerchietto con una specie di lastra di pietra all'interno. Okay. Un disco di pietra al suo interno. Come che il cerchio di metallo li fa tipo da contorno. E sembra che il cerchio di metallo sia... ci siano incise sopra delle rune e, cose, e altri simboli magici. Ok. Posso urlare a loro dicendogli non uccidete, ci potrebbe servire. Io ci provo. Se vuoi puoi fare un velocissimo tiro di arcana per capire. Vorrei addormentarlo. Di cosa? Un tiro di arcana se vuoi provare a capire cos'è. 18. Capisci che cos'è. No, scusa, 20. Capisci anche meglio che cos'è. è un oggetto magico di cui hai sentito parlare ma non hai mai avuto in mano, diciamo. Viene chiamato la pietra di comunicazione. È un oggetto magico, diciamo, che viene a coppie, ogni pietra è accoppiata a un'altra pietra. Se parli di una pietra, l'altra parte lo sentono, se l'altra parte parla di una pietra... Sussurro nella pietra. Okay. Sussurro nella pietra. L'uomo che sussurrava alle pietre. È un cellulare. No, gli dico... Che dove? WhatsApp, no? Per la registrazione vocale. Esatto. Non so se qualcuno sta ascoltando, però dico, stiamo venendo a prendervi. Sussurrando nella pietra. Perché l'hai fatto? Perfetto. Però vabbè, non dovrò sentire. Però l'hai fatto. Ah no, aspetta, no, non lo faccio, scusa. Sono un cazzo di cervo. No, sono un cervo. Ah, è vero, sei un cervo. Allora non puoi entrare dalla finestra. Non ci passi dalla finestra, sei un cervo. No, quello ti stavo chiedendo. Ho detto, sì, ci passi. Ah, non avevo capito. Vabbè, il cervo ci passa perché sei un bellissimo cervo. Salta certo. E... Sì. Guarda sul muro. Ti prego, sfonda le cose. Può sfondare. Vabbè, fantastico. Pirate, tocca a te. Sei morto. Vero, fammi un tiro di morte. Tiro di morte. 18. Hai un successo. Io mi chiedo, non ho un accidente. Barbagianni. Pensare. Se vuoi fare qualcosa. Barbagianni. Io sono fuori dalla casa, no? Così sembrerebbe. Sì, fai, puoi ammazzare. Entro. Però non tu sai quel cazzo di cosa, non mi incazzo, li ammazzo tutti. Ok, la vedo, la tizia. Fammi un tiro di percezione. Siamo a due, tu fai meglio a non parlare. Tu hai detto, fai pure. Detto, fammi. Una volta. Mo sti chiedo. 10. Anche tu vedi che John da una parte sta guardando in giro, sta cercando, dentro la cucina c'è un cervo che sta rompendo tutta la roba e nella confusione non riesce a vedere nessuno. Mi nascondo, c'è di Ranger Slip. Ok, fai un tiro di stealth. Sembra 20 c'è non di Ranger. Venti naturale. Minchia. John ti vede perché è nella tua stessa camera, però chiunque altro sia al di fuori non ha la minima idea di dove tu sia in questo momento. Proprio per questo, Gino, tu non ti eri accorto che nella cucina c'era un altro passaggio abbastanza coperto da una tenda che nell'oscurità che non si notava per bene, dalla quale spunta fuori ancora la tizia con arco e frecce e nell'ultimo tentativo disperato prova a colpirti nella tua forma di cervo. Mannaggia, e come era nascosta avanti? Che ha fatto 12 come tiro alto. Non mi ha colpito. Purtroppo la freccia si va a incoccare in un asse di legno di autorità e usa la sua azione per la sua azione bonus per fare il dodge. Mi sembra che possa farlo, direi, no? Comunque dopo tocca a Gallifrey. Ora tu mi devi una cosa molto rapida. Vabbè, faccio 30 a 10. Posso entrare dentro la casa? Ah no, non può fare niente. Okay. Certo, può entrare dentro la casa. Vabbè, dalla finestra o dalla porta? Aspetta, la tipa io la vedo da fuori? Adesso che è uscita dal suo nascondiglio, la riesci a entrare a vedere dalla finestra. Ok. Ah, poi io entro dalla... Entra dalla finestra. Dal camino. Dalla porta. Beh, entri nella casa. Entra dove cazzo mi pare. L'importante è che mi trova la tipa. Che vedo la tipa. La vedi benissimo. Ah. Non hai mai visto una cosa meglio in vita tua. Ti casto slip. Okay. Cioè, casto slip, quindi cioè, non è che casta a lei. A 20 piedi. Cioè, io ci addormenti tutti. Ok. Cioè, non le brucasse. Quando è nel sonno. Che bello. Devo stare tutti. Ok, se... Fammi una prova di arcana, se la superi riesci a non includere Gino nella tua area di azione. Parla, insomma, che va a muore il cervo. Non cioè, sono pronto, dormendo, mi sa. Il problema è che addormenta te e non quella puttana. Ah, vabbè. Aspetta, scusa, un tiro d'arcana, ti chiedo scusa. Avevo 42 di punti di salute. Da cervo? Merda. Figa. Io ci ho fatto 9. Sei andato milanese già. Ho fatto 6, sì. Sì, ma in arcana avrai un... No. Fai un tiro. Adesso tira i tuoi... Amico, lo casto come con slot di secondo livello. Vai, castalo. Sì, perché non rischio, così rischio sicuramente che... Ma aspetta, no, ferma un attimo. Ma la tipa ha subito tanti danni? No. La tipa non è stata colpita una volta. Ma che scritti? Ora devi decidere, avrà più o meno di 42 punti salute? Ma veramente? Sicuramente di più. Perché ci stiamo mettendo queste anze inutili? Gli casto Fireball. Facile, tardi. Non lo sapevo che non era stato mai... Se non conti le carte non è che ti posso aiutare. Che cazzo che sei, Salla? Ma sei il master, volevi fare il master? Facevi la campagna di D&D e facevi il master, sto proprio per il cazzo. Io sto chiedendo a Marco, se Marco me lo fa fare, ok. Se non me lo fa fare, niente. Se il master deve fare il cazzo di master, perché devi rompere i coglioni ogni santa volta? Tu fai il master in urbanismo. Tu devi leggere i manuali, in assoluto. Sala, non puoi farlo sempre, veramente. Come prima, anche quando ho scontato che il tipo faceva tipo la mossa, faceva 3.000 mosse. Ma cazzo, è un gioco! Ma faglielo fare, il master? Chi se ne frega? No, perché... no, ma hanno fatto quella manovra che fa, no, non sei d'accordo che ha colpito Edo, è andato più uscito, e quante cose fa, ma faglielo fa, ma che cazzo. Va bene, possiamo continuare qua, sono già le 11 parti. Sì, che mi sono sfogato. Hai fatto 20 minuti di monologo per dire, grazie Sala, l'altra volta mi hai salvato il culo, però forse è meglio se non lo dici in giro. Vedete che Gallifrey a un certo punto esce di testa nella cucina e dice, ma scusa, c'è la tipa lì, io devo guardare lì. E il suo turno è passato. John, tocca a te. Qui non ha fatto un cazzo. Me lo fai fare? No, perché la vita fa schifo. Adesso che non la farei fare. Allora, io ho notato il cervo nella cucina. Io l'hai notato il cervo nella cucina. Grazie. butto un occhio veloce in cucina se vedo lo scudo, ma mi sa che ci avevo già un po' guardato prima. Non c'è lo scudo in cucina. Allora gironzolo per la casa, che altre camere ci sono? Allora, vedi che il corridoio, diciamo, che da più o meno sulla sala principale dove sei entrato, c'è un corridoio dietro che va in alcune camere, una matrimoniale, un'altra con due letti singoli praticamente, dove sembra che ci siano le cose di questi tizi. Questo è quello che vedi guardando qui. Ravano perfetto. Come un animale. In quale delle camere? Tipo? Una delle due cazzo. E nella camera principale, diciamo quella più grande, no, probabilmente in una casa del genere è probabile che ci fosse tipo una camera comune. Sto immaginando un po'. Sì, c'è ovviamente una camera comune con vari letti. E in questa camera, però, vedi che c'è tipo un mucchio, un mucchio di roba, dove effettivamente ritrovi i vostri oggetti magici. Oh, allora lascio il mucchio, è tipo un baule o un. Un mucchio sembrano basta. Tipi tipo ammassati lì, ritrovate però quello che trovi, però vedi sono solo oggetti magici e nient'altro. Che vuol dire? Il mio... Che abbiamo? E quelli tipo trovi la borsa bag of holding che aveva Gallifrey? Tu? Per esempio? Posso avvenire? Che altre robe avevate in mano? Non mi ricordo. I miei semi magici. Una volta la mia spada era male. I miei stivali forse. Sì, la sua spada. Tu trovi i tuoi stivali? Ah, me c'avevo pure gli stivali, è vero. Sì, ma no, la spada sua era più, no? È magico. Che l'aveva in mano Tobias? Ah, già, è vero. Cioè, il pugnale c'aveva l'altro maiale. Che l'aveva in mano questo. Il... Ah, è vero, è probabilmente è ancora tipo fissato lì nel tempo. Sì, no, ma l'ho dato. Dopo vado a recuperare tutto. Volevo cercare il mio scudo. Vabbè, non, allora prendo tutta era roba. Magico. C'è una finestra vicino, ma sono a un piano alto o basso della casa? Basso. È tutto piano terra, non ci sono secondi piani. Se c'è una finestra, prendo tutto e lo tiro fuori dalla finestra. Più lontano tutta che posso. Ci sono anche le pozioni che avevate. Prendo tutto e tiro. C'è una singola finestra nella stanza che dà tipo sul retro della casa. Che okay. Però non trovi il tuo scudo. Va bene. Non era magico il tuo scudo. Però c'era il mio stemma per quello che mi ruga il culo. Perciò, certamente. Prossimo non round ricordo... fuoco dalla camera. Vai. Okay. Gino, sei ancora cervo? C'è ancora la tizia davanti a te? Non arriva sicuro. Ammazzatevi, prego. Ma scusa, Gino. Poi c'è l'inizio. Ma merda, cioè, tira freccette del cazzo. Cioè, muore sicuro. Ma che distanza sta? È più di 20 metri. Sarà 10 feet al massimo. Neanche. È a 10 feet al massimo. Fai il metreggio di 20 feet, 10 feet e la carico. Per prendere la. Cioè, lei è in una. Sei in una stanza, non c'è proprio lo spazio per fare una carica. Vabbè, non c'è tipo il passaggio che va nella sala dove venivo? Cioè che va nel... Sì, ma non è proprio dritto di fronte a lei, non c'è lo spazio necessario per fare una carica. Puoi fare un attacco normale, ma non c'è lo spazio per una carica di un cervo in una casetta di campagna. Beh, mi è mai capitato di far entrare un cervo in casa, hai visto? Dalla finestra. Dalla finestra, sì, questo caso in generale. Cioè, tu sei piccola una volta di solito sere. Questi mai. Allora, ho 150 di tombi di distanza. Il terzo mi fa più danno. Faccio 17 per colpire. Hai colpita? Faccio. Ma ci sta, ma chi, ma chi se ne vuole? 14 danni, mi è difficile che non volevo. Ma chi se ne vuole? Proprio la sollevi di forza con le corna, vedi che il suo arco resta incastrato un attimo, cerca di vincolare, ha sentito duramente il colpo. Pyre, tocca a te. Ormai adesso mi confido. Fammi un tiro di morte, perché... Pazienza, adesso mi va a bestia, perché è così la stregone. Tu fallimenti o punti vita? Un successo o un fallimento? Ricordati che è un 20 naturale, cioè nel senso è un 20 e basta, è un di 20 senza aggiungere niente. Sì, devi fare 10 o più, quindi è tecnicamente un... Perfetto. Quindi è un fallimento successo. Comunque un po' delle merde, nessuno è rimasto fuori a stabilizzarlo. Esatto, è quello che stavo dicendo io adesso. Barbagianni, tocca a te. Io, il mio scopo della vita è stato realizzato, posso anche morire lì. Barbagianni, tocca a te. Chi sono stati gli ultimi a entrare nella casa? Barbagianni. Io sono stato, lo so. È vero, è stato Gallo. Sono stato un figlio di puttana, perché non sono ammazzato, manco mi sono ricordato di stabilizzare. Lo so. Vabbè, ma tanto, cioè... La punizione arriverà per tutti, no? C'è solo bisogno di tempo. Sì. 20 punti ferita, che cazzo vuoi? Dai, no, già per tutti intendo per lui. Ah, ok. Mica tu mi hai sparato una fireball in testa. Ok. Mamma mia. Vabbè. Barbagianni, tocca a te. Ok, posso usare sneak attack perché ero nascosto, giusto? Sì. Anche sì. No. Rispetto alla tipa era nascosto. Ma anche perché è in corpo a corpo la tipa. Ah, tra l'altro. Tra l'altro. Tra l'altro. Quindi solo la smetti di dire cose a favore di già di Gava, cazzo, Se l'avevo lo stesso se dice attacco. Sì, dai, tira sto attacco, dai, sono già le 11 e 20. Vantaggio. Sì, perché sei nascosto. Un vantaggio? Com'è possibile? La vita. Mi nascondo. C'è molto male. Ok. La tipa estrae un pugnale, prova a pugnalare il cervo perché sta un po' rompendo il cazzo anche lei. Ok, con un 25 tipo ha colpito. Se la faccio. Gino, prendi 4 danni perché siamo punto a pizzi. Perché prendi 4 danni? Perché l'ho pugnato. E Gallifrey, se ti sei schiarito le idee, adesso puoi agire. Oh, adesso ti ho detto, ma sono capito. Ma quindi la tipa gli ha fatto qualche danno adesso? No. Ancora niente. No, gli ha fatto 14 danni in che stato, Gino? Sì, ma adesso Gino ha meno punti ferita. Mi ha mancato. Cioè, con un vantaggio. Ti riporto. Dai, tira. Allora, te lo dico così non dici. Solla, quanta vita ha Gava? 11. Ecco. Io uso sleep. Prima si addormenta lui, poi si addormenta su. Infatti. Se forse si addormenta l'altro E te lo dico, poi... Sì, ho pensato. Io ho 38 punti ferita, la tizia appunto la mia. Io ho fatto una buona ammazzare, io sono morto. io sto andando fuoco alla casa. Cazzo. Vabbè, l'importante è che sono morto fuori, così anche se mi scordate non muoio insieme alla casa. Vabbè, visto che tanto ammazzarla ci pensate voi che siete tutti OP, io me ne ritorno fuori. E stabilizzo. Bravo, metagame. Ci piace il metagaming. A noi. Fammi un tiro di medicina. Perché cazzo bisogna stabilizzare con la medicina? Ma dai, culo, Io pensavo che bastava dagli due schiaffi per svegliare. Certo, così fai altri due danni. Ma se fa uno muoio? No. Che, cioè, me l'hai tirato? Che ne so? Senti. Il dado è tirato. Ah, okay, okay. È giusto. Un di qualcosa. Quanto hai fatto? La medicina che è? Mai quanto visto? Fatto? Ho fatto 10, ho fatto 10. Allora l'hai superato. 10, l'hai superato. Riesci in qualche modo a estrai qualche amico. Stracci un po' la tunica di Paire, ne fai delle bende, cerchi di fermare un po' il sangue ed effettivamente adesso Paire è stabile. Complimenti. John. Allora. Scusa, ho detto che passi il turno, come succedeva. È finito il tuo turno. Non è... Ho fatto un'azione. Fatto un movimento. E quindi l'azione bonus non ce l'ho? Ce l'hai l'azione bonus? Che vuoi fare con l'azione bonus? Non lo so. Niente. Devo solo dire che ce l'avevo. Fantastico. E sapevo che c'era un'azione bonus. Quello sono tutto lineare. No, ti chiedo, posso... Cioè, vedo la tipa. Cioè, la tipa è in range mio. Oh, sei fuori, accanto al cadavere di al corpo di Paire. Dalla finestra, ok. Passo il turno. Inizia a essere un po' stanco, quindi sì, riesci a rattoppare Fire, ti rialzi, guardi dalla finestra e c'è la tipa sulle corna di Jin. C'è la tipa proprio fuori dalla finestra così. Quindi la vedo. Sì, la vedi. La vedi perché mi sono rotto il... E quindi la posso colpire. Uso due punti. Come non posso? Come la posso? Sì. Uso due punti stregoneri e faccio Firebolt. Può farlo perché ha Quicken and Spell o qualcosa del genere. Va bene, tiro per colpire. Anzi no, scusami, visto che posso gastare quello che voglio, faccio Magic Miss. Vabbè, no, aspetta, piano, fai un Fireball, così non devo neanche dar fuoco alla casa, abbiamo risolto. Vabbè, io sono là dentro, così muoio un altro. Non sarebbe bello, non ci tiriamo e torniamo in fila. Ma Paire, tu sei tecnicamente a zero, non sei cosciente, sei ancora incosciente. Lo solo non devi più fare tiri per salvare. Io farei Fireball. Vabbè, io lo so che tu ti diverti tanto a vedere soprattutto Game. Sei in un'altra stanza, guarda. Non li hai anche finiti gli slot di terzo livello? Ma anche no, tutti stregoneria, magari. Hai fatto... Ah no, perché non sei riuscito a fare counter, spero, è vero. Non mi hai fatto fare, sei stato cattivo. E no, cioè, c'ho 6 punti di stregoneria di cui ne ho stati 2 soltanto. Mo 4. Fantastico. E vabbò. Cosa sta facendo? Non si sa. Meglio non chiedere. 12 danni. Cosa stai facendo? Magic Mist. Ah, è... non si capisce. Cazzo. Cioè, aggiungi un più uno, sì. Sì, ho più 12 danni, va bene. È ancora viva però tecnicamente. Sì, che alzo. Ora cazzo sonno. John. Allora, vado vicino, cioè sono vicino a un oggetto di legno, immagino. La casa di legno, quindi sei molto vicino. Uso l'acciarino, se no smaito direttamente le mura per dargli fuoco. No, non è vero, in realtà il pavimento è di pietra, ma... Vabbè. Ok, poi i letti sono di legno, poi benissimo, vedi che sono anche fatti con un po' di paglia, quindi vedi che prendono bene con l'acciarino. E... Ok. Perfetto. Quando vedo che hanno preso, vado nella stanza di fianco e guardo la stanza di fianco. Ok, stanza di fianco è tipo uno sgabuzzino con dentro robe cibo, tipo cose guardo del genere. Uno sgabuzzino con robe cibo. Ma Gino. Al fuoco. Gino, tocca a te. Vediamo di farla finita. Sì. Un attacco non letale. Va in corno. Rincornala, ok. Il famoso attacco non letale. Beh, se la corna non è appuntita. Ho fatto 24. Hai colpita? 12 danni. Non la uccidete. Non l'ammazzare, che devo chiedere dov'è il mio scudo. Esatto. Di nuovo, tipo, dai un'altra testata in su e si affloscia un po' di più sulle tue corna e senti che effettivamente perdi i sensi. Vuoi essere crudele, considerandolo come attacco melee, puoi sceglierla e se ucciderla del tutto solo. Stordirla gravemente. Stordirla. La vuoi uccidere o stordire? La uccido. Io lo sapevo, è proprio così. Io casto Fireball, siamo fuori stellino a Fireball. Allora praticamente la schianti contro il muro e si trafigge proprio sulle tue corna, il suo sangue ti gronda un po' in faccia, ma è senza vita. Io recupero l'arco. Il tradimento mi ha... Vabbè, con e le frecce. Io do un bacino sulla fronte a Edo. Faccio svegliati, amico mio. Bella siamo, grazie a Dio siamo fuori dal combattimento. Sì, durato, durato appena un'ora e mezza, praticamente. Quasi due. Due ore, è stata la partita più bella della mia vita. Penso che vado a casa a fare delle cose. Per l'espressione della felicità. Ok. Il mio fioretto è da qualche parte. Ce ne fate il fioretto. No. Cosa fate? Volete ficcare in casa? A parte la pietra... a cercare finché non prende fuoco tutto. La casa, Salla. Iniziate a cercare in casa, vedete che è una casa da contadino, ci sono... Sì, ma veloci, che intanto sta bruciando. Ma io me ne sono accorto o me l'ha detto? Dopo c'è un po' camera che è completamente in fiamme, vedi tu. Ma se sono nell'altra... Sì, ho capito. E quando iniziate a guardare in casa, inizi a vedere che c'è un po' di fumo provenire da un'altra casa. Ok. Ho dato fuoco alla camera. Puoi recuperare l'arco e le frecce della tipa, ci sono... La spada di John è fuori sul corpo di Tobias. Sì, anche il pugnale, immagino. Il pugnale è sul corpo. Il pugnale è stato nerfato. Praticamente lo puoi attivare una volta a riposo breve. Ah, ma sì. Però il resto... Ah, ok, era già stato così? Allora, sì, sì, sì. Te l'ho detto io di farlo. Sì, può essere. Ah, senti. Ma... Ok, c'è il bastone di Jump che l'ha già ripreso, quello lì. Allora scusa, ma era il dolce Salla che aveva trovato tutte le belle cose, le cosucce, le ha buttate fuori dalla finestra. Sì. Ma perché questa perché devo dar fuoco alla stanza, cazzo. Ma dice a me che sono stupido. Tecnicamente nella casa non c'è niente a parte quella strana pietra che quella pietra che ha trovato Gino, il cervo. Per il resto non c'è nient'altro se non cibo per possiamo prendere quella pietra cortesemente? La puoi prendere, benissimo, non c'è problema, è lì per ho terra. Sbagliato, l'ho mandata agli altri. È lì per terra in cucina. Vabbè, c'è ancora... io ti chiedo per non affaticarti troppo in realtà. Rapidamente, Prestidigitation. È già troppo tardi, comunque vai avanti. Ma cosa ti vale Prestidigitation per spegnere le... affievolire un po' le fiamme? Puoi spegnere un falò, ormai il fuoco ha preso già tutti le... Per quello ti ho chiesto, si può affievolire leggermente per rallentarlo quel poco? No, ormai la casa sta bruciando. Okay. Ci sta, per amor del cielo. Per amor del cielo! Ho tempo per misticare dei pantaloni delle tipe là, in generale. Oddio! Là, un po' di necrofilia ci sta sempre. Che cazzo stai facendo? Ma i soldi. Beh, allora, sui loro corpi trovi un totale di... Trovi un totale di... ancora uno, dai. Un lame bucato. Di 10 monete d'oro in tutto. Nel senso, tra pezzi di rame, d'argento e cose del genere, metti insieme una decina di monete d'oro. E quindi due a testa, dai. Più, sì. E su ognuno di loro però trovi una moneta particolare, che riconosci, perché l'hai già vista, un paio di volte, con il serpente alato. Serpente? È un serpente alato il simbolo. No, no. Tutto qui, per il resto nessuno ha... Le loro armature sono armature normali. Io torno umano e prendo, cioè, i pianati e prendo la pietra, quella runica. Una cosa. E sussurro, stiamo arrivando. No, stai fermo. C'è il mio scudo, c'è uno scudo. C'è lo scudo che usava... Vabbè, intanto prendo quello. Io urlo. Tu non sai cosa sto facendo. Io ho preso una piccola terra e ci sto sussurrando parole. Sì, perché non ci penso. Puoi fare un tiro d'arcana per capire, per vedere se sai quello che hai in mano. Cioè, se ci diventi non farlo. Tanto 10. Sei uno stregone, quindi per te è più probabile che tu abbia visto un oggetto del genere. Lo conosci anche tu, e come è pietra di comunicazione. Il DC di Gino era più alto per te. Ma cosa usatela? Stupido di un duc. E tu? Lo fai lo stesso? Sì. Paire, tu sei ancora svenuto fuori dalla porta. Ma perché? Ti chiedi se gentilmente non farlo. Spero che bisogna sincronizzare. Voglio mettergli paura. Ma che ti mette paura? Intanto che loro fanno le loro minchiate. Quindi Gino parla nella pietra. Se avevo qualche informazione. E mo? Papà. Io ho intelligenza 9. Si vede, si vede, cioè non serve sottolineare le obietà. Adesso il fuoco sta la temperatura sta iniziando a scaldarsi, diciamo, nella casa. Vedete che il fumo sta iniziando ad arrivare anche alle altre stanze e non riuscite a... Marco? Ti faccio una cura su Pyre. Sì, dimmi. Tra le robe che ha buttato fuori Salla non c'era un fioretto. Guardando in giro notate Salla sugli... John, tu lo dici agli altri del mucchio di robe che hai buttato sì, fuori dalla finestra? Sì, c'erano i vostri oggetti magici, li ho buttati fuori perché avevo fretta. Praticamente ritrovate tutti i vostri oggetti magici, quelli più importanti, per esempio la borsa di Gianfe, gli stivali di John, che altre robe avevate che adesso non mi ricordo benissimo, per questo vi avevo chiesto di inviarmi la scheda. Il simbolo che avevo al collo non è magico, ma me l'hanno tolto. Quello è, l'avevi al collo, ce l'hai ancora, te l'hanno messo insieme. Il frenettino di Diego, quello che gridava il suo nome e faceva... Quello lo teneva addosso, quindi non l'ha perso. E il martello. C'è il tuo martello, giustamente, bravo, grazie. Vedi che mi stavo dimenticando qualcosa. I sementi del nostro collega. C'è il tuo sacchetto da druido, anche se non hanno mai ben capito cosa farci con quello. Quindi, vedete che ci sono quasi tutte le vostre pozioni. Quasi tutte. Che pozioni avete? Io avevo una cura. Una di veleno con paralisi, 7 fiale di veleno, che era un'altra roba, e 2 bombe fumogene. Ok, visto che volevo nerfare un pochino, hai perso 4 fiare di veleno. Birra? Birra? Ce l'hai birra? Birra. No. Okay. Birra. No, più o meno per il resto le cose magiche ve l'hanno estratti dai vostri corpi incoscienti. Però intuite che erano interessati solo alle cose magiche che avevate, perché per il resto quello che portavate con voi era senza valore per loro. Ecco, questo senza valore dove l'ha messo? Allora, tornare nella spiaggia e vediamo se l'avevano lasciata là, ok? Può essere un'idea. Vabbè, un fuoco anche al fienile. Ah, tra l'altro... No, fermati, ti prego. Al fienile non sapete quando vi ho detto che eravate in un villaggio un po' più... un po' più a nord del Mentivo, perché può darsi che ci sia scritto proprio di lore che sull'isola ci sia un unico accampamento che è l'Ulf of Tugger. Vabbè, non ho ancora capito che cazzo vuol dire. Quindi siete praticamente... Ora che effettivamente riuscite a guardarvi meglio intorno, notate che la casa, che sta lentamente prendendo fuoco, è una di quelle, diciamo, un po' più distanti da un gruppo di case molto più grande. E intorno a voi ci sono dei campi, per quanto non sembrano molto ampi o rigogliosi, ci sono dei campi coltivati. A qualche centinaio di piedi da voi sembra esserci un'altra casa, poi come così, e andando avanti le case si fanno sempre più fitte fino a diventare un villaggio di buone dimensioni. Che ora è? Che ora è? Saranno tipo mezzogiorno passato da poco. Vedete che sebbene ci sia del fumo levarsi dalla casa, non vedete ancora nessuna persona dalle altre case o dal villaggio dirigersi verso di voi. Qualcuno, se ci fate attenzione, probabilmente qualcuno esce da... Notate alcune persone che escono dalle case in lontananza, stanno ferme lì però senza avvicinarsi perché non sapete perché, non si avvicina. Ma vestite come queste persone? Sono abbastanza lontani, ma da quello che ti sembra normali, sembrano vestiti di con vestiti comuni da contadino. Ok. Hai segnato 8 punti veri, 8 punti feriti? Sì. Ok. Che famo? Ce ne andiamo o aspettiamo che arrivino tutti? Allora, io direi, visto che tu hai bisogno del tuo scudo, se no... notando anche un pochino dopo, vedete che le figure guardano nella vostra direzione e poi sembrano andarsene senza troppo interesse per quello che sta succedendo nella vostra zona. Notate di essere proprio la casa più estrema, al limite più estremo del villaggio, proprio gli ultimi della bottega. Non ci sono case più in là di voi, siete proprio le più lontane dal villaggio. Io direi di cercare di tornare sulla spiaggia affinché di trovare quei restanti oggetti, o anche cercare di vedere se qualche superstite del nostro famoso equipaggio sia rimasto lì. Non sei sicuro bene di dove sia la spiaggia. Magari non siamo qua vicini. Cioè non siamo arrivati qua vicino. Sentite il rumore del mare in lontananza ed effettivamente lo vedete anche circondare, però tipo dalla parte del villaggio. Lo vedete che c'è il villaggio con lo sfondo sullo sfondo il mare. Dietro di voi ci sono alcune colline, quindi non riuscite a vedere oltre le colline. E a vostra... praticamente dalla parte dove c'è la casa, dietro la casa in lontananza si vedono i picchi delle Purple Rock che si innalzano nel sole di pomeriggio. Secondo me possiamo bruciare il fienile, bruciare i campi e andiamo verso il villaggio a vedere chi c'è. Ma non ci possiamo tipo sambo? La cosa è... Zed vi aveva chiesto di, vi ricordo anche di incontrarvi però la sera su un boschetto che vi aveva detto più o meno dove era rispetto a loro. Fuoco a tutto e poi andiamo al boschetto. Andiamo fuoco al boschetto. No, riposo lungo ovviamente. Sapreste ritrovare il boschetto anche perché in lontananza abbastanza si vede da dove siete voi. Vale, poi però se ancora... fa buio, cioè diamo fuoco al fienile così dopo sappiamo come tornare al villaggio. Salla, hai preso qualche caratteristica di Jump tipo dalla precedente? Sì, probabilmente l'ho conteggiato troppo negativamente. Ti chiamavano Nerone. Ditemi voi, se volete sapere di più sul villaggio, se volete sapere di più sulla zona circostante. Ce ne frega il villaggio, tanto brucerà tutto. Il villaggio sono almeno... Sì, dai, facciamo... un centinaio di case. Facciamo così, diamo fuoco a sto fienile qua, che non è bello lasciare, perché dopo non fa pandan con la casa. Vabbè. Il boschetto. Ci sono un paio di cavalli dentro il fienile. Prendiamo i cavalli. Allora mangiamo i cavalli e poi andiamo. No, i cavalli... Ah, giusto, esattamente. Nel ricomporvi, diciamo, nel recuperare i vostri oggetti, notate di non avere provviste. Ah, tardi. E solo adesso vi viene in mente che la dispensa della casa probabilmente sta bruciando. No, bravo Sal. Prendiamo i cavalli. Beh, ci sono due cavalli da mangiare. Sai quanta gente sfamano due cavalli? Beh sì, due cavalli si sfami il... Scusa, riflettete, a questi stronzi non li possiamo vendere perché... Siamo in 5, 2 basta, cosa ce ne facciamo? Prendiamoli. In due si può cavalcare su un cavallo. Sì, lo so. Scusami. Fate correre Barbagia. Collega Marco, ma io tecnicamente nella mia bag folding là, che cazzo è, ci ho messo tutto. Quindi anche i cavalli. Anche i cavalli. Cioè, soprattutto. No, ci ho messo che sono le razioni di cibo, le cose. Io tecnicamente ce l'ho ancora. O loro di proposte. Sì, tu ce le hai. Tu ce le hai. C'ho tutto. Però se erano razioni per te per tipo 2 settimane, per 5 di voi saranno per... Vabbè, niente cavallo per già. Per tipo 2-3 giorni al massimo riuscite. Io riesco a ritrovare la testa del tipo. La? La testa del tipo. Ah sì, tipo, tu sei tipo svenuto con la testa in mano. Praticamente. Ah no, perfetto. La conservo. La morte la metti al collo, Monica Temin. No, allora il mio scopo è quello di andare in giro per il villaggio con la testa in mano cercando un negoziante che mi venda provviste. Diciamo qui, mi dai qualcosa? Secondo me se andiamo adesso si stuprano al villaggio. Dici? Io per il momento stanno già passati tipo una buona mezz'ora, la casa va a fuoco, si alza il fumo. Sì. Per il momento non sembrano esserci reazioni da parte degli abitanti. Un centinaio, chiediamo a... centinaio di case. Sì. Vuol dire, immaginate che la popolazione sia di circa 400 persone nel villaggio. Chiediamo a Zed se possiamo massacrare tutti e poi andiamo. Zed non è qui nel momento. Io sinceramente però prima proporrei una piccola cosa. No, a parte quello. Io chiederei tipo al mio dolce amico Jacopo Nino se mi può dare cortesemente la runa. Ah, la pietra, sì. E vabbè, io la prendo in mano, mi fai capire come funziona effettivamente, se mi devo sincronizzare. Tu lo sai come funziona. Mm-hmm. Devi, come dire, imporre la tua volontà nell'oggetto magico di comunicare. A quel punto vedi che le rune tipicamente si illuminano nel cerchio di metallo intorno alla pietra e poi parlando tu il tuo messaggio... Devi sapere il numero. No, perché tipicamente queste pietre sono accoppiate. Quindi devi avere la coppia, solo funzionano solo la coppia tra di loro. Allora, io ti dico una cosa. Quello che voglio fare io in questo momento... Qui tecnicamente quello che ha detto Gino non ha funzionato. Se aveva la voglia di comunicare, tecnicamente sì, ha funzionato. Se aveva intenzione proprio di comunicare con loro, sì. Vabbè, fallo, metti costo. Ma non c'era abbastanza volontà, io non lo vedo poderoso. No, io volevo. No, tutto l'altro. Vabbè, la mia idea è di usare Alter Self... diventare come Tobias, cioè avere il suo tono di voce, i suoi modi, bla bla bla. Esattamente. Oddio, mi brucia la casa, aiutatemi. Esatto. Sono così banale. Mi sono riuscito a nascondere, per favore, aiutate. Venite in mio soccorso. No. Ok, allora quindi ti trasformi in Tobias e nella sua voce? Sì. Ok, fammi. Ok. Fammi una prova di arcana. Di persuasione, va bene. 9, anzi no, 10. Ok. Va bene, cosa dici nella pietra? Tipo con voce un po' affannosa, capito? Bla bla bla, dare un po' di situazione. Dire, ho bisogno d'aiuto, sono appena riuscito a prendere, a riprendermi la pietra, ma hanno bruciato la mia casa e hanno ucciso tutti i nostri compagni. Per favore, venite ad aiutarci, ad aiutarmi. Sono morti tutti. Sono riuscito a nascondermi, ma loro sono ancora vivi, aiutateci. Ok. Sono in due, ma sono potentissimi. Ok, finisce qui la mia storia. La pietra si illumina, la senti vibrare quando pronunci le parole e per un attimo si spegne. Aspetti qualche secondo e vedi che le rune si illuminano di nuovo e senti una voce. I prigionieri sono scappati. I prigionieri? Sì. Esattamente così. Sì, i prigionieri sono scappati, ci hanno sopraffatti. Non so... Ma hanno avuto davvero molta fortuna, perché non erano forti. Per niente. Quindi mandate giusto lo stretto necessario per aiutarmi. Non riesci a intuire niente dalla voce che senti, perché tipo viene come distorta dalla pietra. Senti che la pietra inizia a vibrare e riproduce i suoni della voce di quest'uomo, ma li produce in modo un po' falsato, non riesci a capire se è uomo o donna. Ah, questo è qualcosa. Ok, capito, sì. Quindi anch'io ho la stessa proprietà, cioè anch'io parlando nella pietra lui la sentirà un po' distorta la mia voce? Probabile. Quindi usare il mio incantesimo è stato tutto inutile. Ok. No, vabbè. Vabbè, ti aiuta. Sì. E... Io continuo a dire aiutatemi, venite subito. Sono sopravvissuto solo io, ho bisogno del nostro aiuto. Non sei più utile alla nostra organizzazione. E a questo punto la voce non, e a questo punto non ricevi più risposte. Ammetti che l'idea era buona, anche se tu per la storia non hai potuto fare nient'altro che concluderla così. No, no, non è per la storia, cioè, va bene, potevi farlo. Sì. Ah, sono proprio stronzi natura. È proprio stronzi natura, cosa vuoi che ti dica? Beh, buona sapere. Storia comunque, ma non ha senso. Io allora a sto punto sinceramente direi al gruppo... Cioè, tu vuoi provare ancora a chiedere cose? Sì, è quello che vorrei fare. In realtà vorrei provare a sto punto di andare da solo lì e cercare di... però dopo non so chi è, un casino, no? Fare le solite stronzate come quando andavo con i goblin e non sapevo parlare. E quindi fare figure di merda. Vabbè, allora niente. Io ci riprovo a parlare, ma per favore, almeno aiutatemi. Io posso essermi ancora d'aiuto. So dirvi tante cose di loro. Abbiamo avuto una lunga conversazione prima che si potessero accorgere del nostro capito, inganno. Tu parli nella pietra e per qualche e aspetti una risposta per qualche secondo. Il secondo diventano minuti. News diventano quasi 5 minuti passano senza ricevere risposta. A un certo punto vedi che le rune si illuminano e senti di nuovo questa voce indefinita. Il sangue di drago è ancora vivo. Sto male. Non piace. Sono commosso. Sì, è ancora vivo. Lo sento molto vicino. Sto andando così. È vicino. Posso aiutarvi, posso indicarvi tutto, posso dirvi come fermarlo. So cose molto, molto riservate. Però dovete venire qui ad aiutarmi. Dovete venire qua in soccorso. Beh, facci venire o sì o no, dai, veniamo da qua. A questo punto, di nuovo, la risposta arriva subito. Qual è il tuo nome? Buttava pietre per quanto. No, aiuto, sono ferito. Faccio in meno e tipo faccio no, fermi. Non mi viene un cazzo. No, vabbè. Sì, l'idea è che vabbè, hai capito. Cioè, l'idea è faccio fingi di essere attaccato. Io faccio la stessa voce che ho fatto prima alla pietra. Dice tipo, dico, t'ho trovato figlio di puttana, e faccio tipo un urlo per attaccare. E io faccio per favore aiutatemi, boom. E faccio sentire il fruscio delle foglie che sto calpestando in preda al panico, per far capire che sto scappando, per dare proprio l'idea della. E boom, ma sono io che non rispondo più. Visualizzo e non rispondo. Perfetto, va bene, fantastico. E vediamo. Che attori. Sì, perché non si sa mai che quello viene, io mi presento a lei e faccio. Siete arrivati? Anche se è difficile fare il brusio di foglie, perché non ci sono alberi in giro, quindi... Vabbè, chiudere le comunicazioni. Di erba calpestata. Se proprio erba. Ma chiudere le comunicazioni e basta. Chiudere le comunicazioni. Ok, l'hai fatto. Però adesso la situazione è sempre quella, cioè il villaggio, ci siete voi. Sì, adesso possiamo fare quello che ci pare, almeno abbiamo avuto tra virgolette una cosa in più. Vabbè, camminiamoci verso il boschetto. Il fuoco al granaio. Prendo i cavalli e do fuoco al granaio. Lo fai, c'è paglia dentro, cioè, i cavalli sono un po' spaventati dalle fiamme, ma... Li calmo, ma non fa niente, perché tanto moriranno. Esatto, e poi deve essere cibo. Dai, io posso fare Conjure Animals facendo cavalli da cavalcare? Marco? Come Arca? Marco è morto. In teoria, secondo me no, perché... Scusa, Gianf. No, dimmi, perché no? No. Secondo me ci sta perché è figo, però no, perché in teoria lui evoca spiriti e gli animali. Quindi non è... Marco è frizzato e quindi... Ok, non... vi siete bloccati completamente, mi spiace. Dicevo, è possibile fare Conjure Animals per fare dei cavalli e poi cavalcarli, o possono solo tipo attaccare e fare cose... Tu li controlli, però mi sembra che la durata sia tipo 10 minuti. Era così poco? Se controllo. Non so, secondo me no, perché lui evoca spiriti di animali e non animali, però... Quindi vuol dire che sono troppi eterni? Cioè, tipo... No, è up to one hour. Cioè, non sono proprio fisici, cioè... Non riescono a sostenere quel peso, tra virgolette. Non lo so, secondo me ci sta perché è figo, però boh. Aspetta, oggi è così, se qualcuno ha già risposto. Sto male. Vabbè, intanto vuoi fare questo, tanto vediamo se c'è. No, per me si può fare. Ma sì, perché è figo, però... No, per me si può fare. Qualcuno dice di sì. Ma tu, cioè, tu solo, non è che evochi anche altri due ciuchi? Allora, vediamo qual è la classe difficoltà. Allora, io pensavo che bastava che tu vedessi, ma invece no, qual è la classe difficoltà. Challenge un quarto, quindi ne posso fare se ne posso fare 2 da 1. Ne posso fare 8 di cavalli praticamente. Cazzo, qui. Allora faccio. Congiuro 3 cavalli e tanto, cioè, in un'ora arriviamo al boschetto, penso. Cioè. È un po' distante. Se mandate i cavalli al massimo, dovreste arrivarci senza problemi. Vabbè, sì, dai, in un'ora voglio. Tibide. Cavalchiamo 3 orsi molto luminosi e 2 orsi meno luminosi. Orsi? Sì, orsi cavalli, orsi è questo più figo. Ma tu potresti diventare un animale, tra virgolette, leggendario? O devi essere per forza? Si porta challenge rating del mio 2 adesso. Cioè, quindi non puoi diventare un beast. Un leone con le ali, ok. Può essere una large beast? Allora qualcuno di loro può cavalcare te. Piano. Io. Prima cena. Prima mi deve portare a cena. Voglio fare la cena romantica. Voglio cavalcare, vai io. Metallo. Che vuol dire metallo? Ok. Vi dirigete verso il boschetto, quindi? Sì. Io cavalco Ghino. Ignorate completamente il villaggio. Va bene. Non ti vede il villaggio. No, voglio sottolineare che il coso sta bruciando. Sì. Bruciando? Brucia anche bene. E anche il raccolto che potevamo raccogliere per le razioni di cibo. Ma se raccolto, c'è raccolto. No! Ok. Non fate altro, quindi? Giusto per capire, solo capire io. Boh, no, direi di no. A posto. Va bene, vi cavalcate, mandate i cavalli al massimo. Il boschetto si vede in lontananza, però è ancora... è abbastanza lontano. Vi ci impiegate un'ora buona di cavalcata al massimo. I cavalli di... la magia usata da Gino inizia a scomparire, inizia a sentire lo sforzo che si fa troppo grande, che ormai siete arrivati al limitare del bosco e saranno appena le 2:30 di pomeriggio. E siete arrivati al bosco. Avete fatto. I cavalli, però, i cavalli veri sono stremati a questo punto. Bene, è ora di pranzo, direi. E che ore sono, scusi, detto, quindi? L'una? Due e mezza di pomeriggio. Sì, ha ragione Sal. Dobbiamo far sera tanto, quindi... Sì, anche perché guardando in giro cercate Zed o un accampamento o cose del genere e non vedete niente. Vabbè, io posso accendere un piccolo falò? Sì, tanto ormai. Vabbè, faccio un falò e dico a Gino: mi puoi andare a raccogliere un po' di legna? Va bene. Occhio che appena vai nel bosco ti arriva da dietro e... E poi... No, perché non voglio che veda la trocina dei poveri ciuchi uccisi. Va bene, vado nel bosco. Perché lui comunque sempre, capito, c'ha quel cuore, condivide un po' la sofferenza. Vado a chiedere agli alberi chi è che vuole essere mutilato, che ha dei rami vecchi, malati... Che la foresta non è che sarà passata, non è così... La foresta non se la passa troppo bene, nel senso non è rigogliosa come foresta, perché soprattutto perché l'isola, scusate, è parecchio rocciosa, non c'è molta terra da cui trarre nutrimento, vedi che sono, a fin fine saranno una cinquantina d'alberi che hanno trovato un punto abbastanza terroso, dove c'è dell'acqua dolce che scorre. Per piantare radici e effettivamente a terra trovi già degli alberi morti o dei secchi. Alberi morti, non disturbo gli altri. E io dico al sommo Salla: che dice Kumba? Magniemo? Sì. Se magna? Ammazzo un cavallo. Ammazzo l'altro. No, uno basta, quanti cazzo devi ammazzare? No, c'ho fame, guarda che lui ha perso un sacco di... Vabbè, guarda, è vero, c'è Pyre mangia come... Come un cavallo. Come un bue, volevi dire. Come un bue, quindi bruca un po' d'erba, maiale. Ma mi cazzo, un sacco di volte, se volte è stremato, poverello. Vabbè, un cavallo si mangia, easy. Vabbè, allora uno solo. Vabbè, allora col falò... Ma l'altro non mi sento un po' intimorito dal fatto che abbiamo ammazzato l'amico? No, ma io apro gli occhi, faccio... E niente. E i cavalli sono stupidi. A tutti gli animalisti che ci seguono. Che cazzo è? Smettete di seguirci. Chi è che vuol fare un bel tiro di macelleria per... Beh, io mi sento... lo smaito anche. Bam! No, per uccidere il cavallo ci vuole niente, dopo è il tagliare la carne. Beh, tutto. Cioè, siamo abituati. No, nel senso ci riesci solo per vedere se tipo timbrati di sangue o... Puoi sbaitarlo, tipo... Esplode. Che okay, ti imbratti un po' di sangue, esci... Esplode. Dopo, ma dai, lo pulisco io rapidamente, cioè quello che... Cos'hai? Un con prestidigitation. Sì, posso pulire, fare le cose di casa. Può pulire o sporcare le cose con prestidigitation. Non so l'utilità, però questa cosa sì, è utile. Pulire tipo dalla polvere, non pulire tipo dalle ossa la carne. Vabbè, comunque. È vero. Ehi, ha ammazzato un cavallo. Cioè, è un pezzo grosso e mangiare. Sì, come nelle leoni. Un cavallo. Arriva Jacopo e ci siamo noi, tipo con il cavallo morto. Con la coscia. Ok. Va bene, passate un allegro pomeriggio all'insegna di un barbecue. Abbiamo il cavallo, un barbecue fra amici. E verso sera, saranno tipo le 6 di pomeriggio. Ma quindi nel frattempo possiamo fare un riposo breve? Sì, un riposo breve lo potete fare assolutamente. Tutto. Se volete dormire 8 ore, comunque no, è passato troppo poco tempo dall'ultimo riposo lungo che avete fatto. Prego. Il classico della addirittura da vita. È da vita, vero? Potete usarne anche di più di dati vita, se volete. Ne uso 3 io. Io ne ho usati 5 e ho recuperato tutto. Puoi stare da di vita fino al tuo livello, quindi sei da vita. Non recupero un cazzo a riposo breve. Ah, forse volevi dire la carica del pugnale. Ok, passate un allegro pomeriggio, come dicevo, all'insieme del barbecue. E a questo punto verso le 6 di sera, però sentite un fruscio e dei passi che si avvicinano. Vabbè, se non fosse secondo te mi sincronizzo nel riposo breve col mio bastone, cioè vabbè, era abbastanza... sincronizzate tutte le vostre robe. Sentite un fruscio e dei passi che si avvicinano. Ok, e dopo un po' dal short rest trovate. Un po' dal di nuovo, sempre dal nulla, come comparendo dalla, come per magia, comparendo dall'aria, vedete la figura di Zend che si avvicina a voi dalle ombre. Avete fatto... volevi dire forse dalle ombre, esatto. Bannatelo. Vedo che avete fatto prima del previsto. Easy peasy, io dico easy peasy. Tengo la testa. Mangiato bene? Ovviamente. Figo. No, ci abbiamo un cavallo. Ma ah, io non so, ma io non ho toccato il cavallo comunque. Io sto lì. Io se tuoi. Io non do a Gino le mie razioni di cibo. Capito, che erano tipo vali però cosciotto, vali col cosciotto infatti, che però po'. Erano tipo carne secca, gallette, formaggio. Vuoi un po'? No, vali con la coscia di cavallo, tieni, lo vuoi? No, penso che rifiuterò questa volta. Vabbè. Vedete che si volta a guardare ancora un po' la colonna di fumo che si alza da dove siete stati voi a... No, discrezione. No. È stato... Io caccio fuori la testa e faccio no. Dovevo aspettarlo, conoscendo i vostri precedenti. Ok, vabbè, quindi... Lì ha demolito due navi, cazzo. Cioè, boh. Oddio, tre se consideri quella al porto. Quella che è rimasta al porto. L'abbiamo pure spaventata, cioè, incredibile. Ok, quindi... Parliamo di affari? Sì, e qui chiudiamo la sessione perché è già mezzanotte e 5, direi. Ah, vabbè. Ci sta. Volevo chiedergli, non potevi dirci dell'Alfin, faccia di cazzo? Quale Alfin? Poi questo! Quello! Quello! No. Io ti riporto. Io no, lui io sapevo, io avevo avvertito che non erano quello che sembravano loro. Dio mio, era molto... avete verificato se fossero agenti Zentarim effettivamente? No, beh, possiamo farle anche la prossima volta le domande. Ricordami però di chiedergli del sangue di drago. Ok, va bene, ci sta. Okay. Anche se in realtà non ho sentito, però vabbè, facciamo finta che... aspetta, io mi avvicino al tizio da dietro. Ah, ok. Ho uno schiocco sull'orecchio da dietro. Cioè non per fargli male, per dargli fastidio. Ok, fammi un tiro di stealth. Edo mi ricorda qualcosa. Fatto 18 di stealth. Fatto 18 di stealth. Gli do lo schiocco sull'orecchio, tipo per dargli fastidio, gli dico ogni volta che direi cazzate. Ok, piano. Tu effettivamente ti avvicini da dietro e lo riesci a colpire, dargli un cricco all'orecchio, e però nel farlo lui ha tipo la reazione istintiva che è quella di ritirarsi così. Eh? E tu ha un aneurisma e muore. Ha una velocità, una velocità soprannaturale. Vedi spuntarti davanti al volto un serpente. Cosa? Che, un serpente che sibila e soffia verso di te. Lo mangio. Ti ci vuole un attimo a capire che in realtà che non è un animale normale, ma vedi che questo serpente è fatto di metallo e capisci che quel tubo che si avvinchiava attorno al suo corpo che avevate notato la volta scorsa è un serpente animato che in questo momento sta soffiando e guardando minaccioso verso di te. Possiamo ammazzarlo? Voglio serpente, lo possiamo ammazzare? No, no, finiamo. Sara, ti prego, lo mangio. Finiamola qui, mi piace come finale. Posso uccidere la prossima volta, Salla, per favore? Chi vuoi da me? Ammazzalo. Perché la volta arrabbi... Ti puoi provare, se vuoi. Perché dici che Foltos è cattivo. Io non lo farei, però va bene. Ma frega, io guarda. Va bene. Addio. Va bene, dicevo buona serata a tutti. Ok, con questa piccola immagine pittoresca di... serpenti meccanici che attaccano droidi. Chiudiamo qui la settima puntata di Cross of Destinies e auguriamo a tutti buonanotte. Aspetta, come...